risposto. In agguato, in agguato. Ovviamente stavo ascoltando a Graziano con Gio Maria in PMR. Io so, io c'ho tutto acceso qua. E poi stavo guardando i punti, non ne funziona neanche uno. Non so se farà dare un boom, qualche temporale, qualcosa è successo. Buonasera. Buonasera a lei. Oui. Allora, a posto? Chi, oggi? Okay. Sono io, buonasera. Da no, sì, oggi, finalmente ti sento bene. No, vabbè, sono stanco. Si sente, va. Stai facendo bene stasera. Santiago 7, la vedi 5 però. Avanti, Claudio. Idem, cioè oggi 7 qualcosa in più, ma niente di che, anche a me stesso segnale, la radio però è 5, ultimamente è bene. Cazzo, la giornata di stamattina si è posto un freddo, pari della montana, pari, vento freddo si è messo, ma cos'è della montana oggi? O cos'è? No, non lo so, perché tanto giorno, perché si è tutto quello, sono stato a casa, è stato malissimo, sono malattia. E quindi adesso qui scendi io. Però oggi abbiamo fatto qualcosa qua al condomino, però mi sono salito, lo fa, era un freddo, ma freddo, addirittura vai a domani mattina adesso, e tu già non sei uscito. No, non esco, crubbedi così come ti potessi. Io subito, grazie, per carità. Quante rotture di palle ti sta dando? Chi è questo che mi ha mandato? Che cos'è? Ah, Giulio. È venuta gente ieri a trovarmi, scusate se non ho salutato, perché quando sono andato a riaccendere per salutare non c'era più nessuno. È venuta gente di corpo, quindi sono venuto a fare cose e ho lasciato un po' perdere la radio, dico la verità. Sì, già, quando c'è gente, noi potrà chi vi ha girati di bibidizio. Non c'è problema, no, perché io poi sono andato a portare il cane, si è fatto tardi e non ho ripreso più. Ah, ecco. Io di solito avviso, capito, ma ieri non ho fatto il tempo a avvisare perché non sono andato, sono andato a aprire, non devo lasciarli soli, capito. C'è il telegrafio e vai, ma ti ho disturbato, no, non ti preoccupare. Sì, vabbè, che a me a volte arriva gente, però io mi chiudo la porta. Se è roba che mi interessa, vabbè, esco, se no mi chiudo la porta e non mi interessa. Lì tu se suonano, è chiaro che devi uscire. E allora, genio, che si dice? Sempre camperendisi? Sì. Cosa state usando? Sempre il baracchino oppure quell'applicazione telefonica? No, sono il baracchino, io ho sempre il baracchino al... effettivamente microfono, due chiacchiere, devi stare col telefono in mano, una rottura di scatole, vabbè, bene. Meda, sì, c'è freschetto fuori, fuori della montana, però sta battendo dalla parte qua del giardino, dovrebbe mai stare d'ora. Lì si sente il vento già da te. Ah, io la verità sono sdraiato e c'è la salanda abbassata, no, sinceramente no. Però magari forse tu perché sei più in altura. Ma ieri già si sentiva, anche ha pigiato un albero, un pino secolare, l'ha proprio piegato in via dalla vita. Stai giù di tu, sono da Monte Oro, c'era un albero in mezzo a strada, infatti. Sono tornato indietro, quindi sai anche i resistenti, c'erano i vigili del fuoco, i vigili urbani, hanno bloccato la strada, stavano tagliando, facendo. E ho detto, no, mezz'ora a casa io. Sì, ha fatto, sicuramente ha fatto danno a qualche parte. Molto, molto forte era il vento, molto, molto forte. Vabbè, io ho controllato tutto stamattina, era tutto a posto. Ho visto anche le direttive, tutte in ordine. Già, va bene. Avanti, oggi. Greccale era quello, non lo faccio per carbonato. Era Greccale forte, grande, infatti la Tirrenia la fa, è scesa la Maestrale, non dalle quante, la fine. Però è entrata alle 7 di ieri sera. Qui 6 di mattina. E da lì è afferrata, è una afferrata perché non riuscite a entrare in porto, c'era il porto chiuso, c'era fino a 125 minuti di resto. Maria gara, sì, ma io si vedeva, si vedeva, a me mai mi è entrata acqua dal bordo della finestra. Ho visto che c'era il marmo bagnato, non è entrata dentro, ma comunque ha picchiato forte sulla finestra, la tengo sempre semiaperta, non l'avevo chiusa, avvolgibile, ho visto che era mai, sicuramente era troppo forte, batteva troppo, quindi manca qualche pezzettino di silicone, era entrata un pochino, niente di particolare, però si vedeva che era avvolti. Avanti già. Grazie, mi ha dato. Ma rimando un altro messaggio a Rattapignà, ragazzi, ci non entrando nella Puraiana. Oh, no, ma darsi che sia anche che si sia formato convesso all'interno della finestra, perché lo fa. Da sotto, no, perché io ho i fissi in alluminio all'esterno, capito? E la battuta che appoggia sul marmo evidentemente non è stata siliconata bene. Ora si pure. Ma sarà una passata di silicone. Ma io ho visto su Facebook che c'erano due navi che si sono sbattute, una era la Hobby che avevano ricostruito, e una era la Grimaldi, che si sono sbattute in porto, tutto attraccato, era una fianco all'altra, e era mi sembra tutta la vetrata, una nave, un casino. Oh, se lo sa qualcosa Eugenio, io non ho sentito niente. Non era la Hobby, già, la Chiesina, e uscendo la Grimaldi gli ha toccato la piattaforma di... la piattaforma di manovra della cabina di pilotaggio, e mi ha sbagliato il bloccatore. Perché la doveva attaccare prima? L'ha mollata troppo veloce, ma doveva accompagnare a largare dalla banchina, invece l'ha mollata troppo veloce. Questa allora, tutta la vetrata è rotta, oh mio Dio! Sei napoletano. Io non vado a un raio, abili a raccontami. Ma hai capito com'è la cabina di pilotaggio che sporge? Praticamente ci sono tutte le vetrate, la sporge dalla nave e ci sono tutte le vetrate, ha spaccato tutte le vetrate, si trova un po' di dreggio, un sì, beh, quella è fatta apposta per vedere quando sta manovrando, si sporge, già l'ho vista, se mai ci siano due piattaforme, una parte una all'altra è sporgente. Chi vuole entrare? Buonasera. Ma tu mi stai mandando un messaggio? Ho detto se non entra ne hai butto la porta. Mi ha fatto pigliare. Gianni, buonanima, mi hai sentito dopo tanto? So che stavi lavorando e che eri impegnato, quindi me lo sono immaginato, dai. Mi sto tornando in questo momento da una mini spesuccia. Ah, sono ancora accaldato, dai. Ma state parlando di quello scontro di quelle navi Tirrenia e Grimaldi, cos'era? Ho visto, mi ha fatto vedere il video, cosa ci ha visto il vetro spaccare, tutto, mamma mia. Ma va bene, riprendete che mi organizzo qua con l'acqua, eccetera, dai. Quanti siamo? Per il momento siamo in quattro. Eia. Poi io ho sentito dopo tanto Franco sul 20, Franco del Monte, ha provato anche l'applicazione, non so se sia entrato anche qua, gli avevo detto di entrare sul 10, quando possibile. Ma chi? Franco Califut? No, Claudio, il nominativo non mi ricordo. Non me lo ricordo neanche io, Franco, ma il marito di Ombra. Sì, Franco che era venuto in pizzeria con noi, che aveva gli occhiali, che era subito vicino a te, quella volta. Il nominativo, se ce l'aveva, non me lo ricordo, che ha il superstar, dai, riprendete voi, un attimino che sono al gola secca. Ho capito, il mio Sicilia, Modula, dai, ho capito chi è. Ciao Marco. Esatto. Ma chi è? Non mi dire che è Eugenio. Aspetta, cosa è successo? Un miracolo. Ah, no, io mi stavo zuffando in questi due giorni con computer, con masterizzatori. Ormai sta tecnologia non vale manco più la pena di... Scusa e getta, i masterizzatori fatti tutta con la meccanica in plastica. Configurazioni, lasciamo perdere. Se poi contate il computer Rob Soletto, che c'ho ancora XP, c'è due computer, lasciamo perdere. Meno male che c'è lo smartphone che mi salva. E poi ho imparato anche a stampare, non wifi, col cavetto. All'uscita OTG e si può stampare anche col cavetto, a diretto alla stampante. Vai Claudio. Marco lì, e quello si poteva fare già da sempre, mi pare, o no? Ma guarda, col vecchio smartphone no, non avevo l'uscita OTG, vuol dire on the go, vuol dire che con l'adattatorino da mini, no, da micro USB a USB femmina, potevi mettere chiavette, potevi mettere hard disk esterni, potevi mettere, cioè col vecchio non me lo faceva fare perché era vecchio ed era anche un modello base, con questo me lo fa fare. Di stampare, addirittura sai cosa ci ho messo l'altro giorno, il lettore floppy esterno, c'è una cosa moderna, un lettore floppy funziona. Sì, il lettore floppy sì, mi pare che si poteva mettere anche in quell'altro che avevo io, in questo che ho adesso è... si può fare lo stesso tutto. Vabbè. Avanti genio. Sì, io sono qua, no, sono c'è da Marco. Tra Riffi e Raffa, tra la depressione che rimonta, che te devo dire? Sono demotivato, dai, vai Gianni. Motivati allora, trovate come sta. Queste gambe sempre peggio, vedo che il tempo passa, dobbiamo prendere di prepotenza e portare a fare le lastre, però ci ha detto una cosa il medico, se avesse anche osteoporosi non la operano proprio e quindi rimane l'artrosi degenerativa di tutte e due le anche, speriamo di no. Poi io temo anche le operazioni, sai, mamma è grande, mamma mia, poi lo sai, la sanità nostra com'è già, è come giocare alla roulette russa a operarsi qua. Ma Marco, l'osteoporosi si può curare anche con la calcettonina, quindi se non si può operare si può dare una cura di calcio, la calcettonina si chiama e l'osteoporosi la curava così. Però dimmi se sbaglio, la cura ma non la risolve del tutto, vero? C'è una cura di mantenimento alla fine. Beh sì, non la risolve perché l'osteoporosi non è altro che quello, la fibra che ricopre le ossa che si è consumata, è mica l'atto rigenerare. Praticamente riforma la pellicola, però non è che lo cura definitivamente, dai, tappa, però... diciamo che le dà un po' di sollievo, ecco. Può darsi pure che non ne abbia, noi siamo, è un'ipotesi che ha fatto il medico, no, però siccome mamma era caduta tempo fa varie volte, ma non si era fatta niente, solo un taglio, e pensa era caduta su una bottiglia, c'era una specie di scalettina, no? Lì usa queste gonne corte, strette giù, si è sbilanciata, è caduta di peso, ha spaccato la bottiglia e si è fatta un taglio alla... si dice la parte avanti del braccio, l'avambraccio, ma roba di sangue, i punti li hanno messo mi. Ci credo, poi cade di peso, ma la bottiglia di vetro. Sì. Cos'era? Una bottiglia di limoncino o mirto, una cosa del genere, era vuota lì, messa nel sgabuzzino, doveva caderci proprio sopra, vabbè. Però credevo fosse peggio, che si fosse sfasciata qualcosa. Dai, riprendete un attimino, che riprendo fiato e eccetera. Ehi, ehi, dai, mangiati un cioccolato così almeno ti rinfurti. Avanti. Io ne abbiamo mille. Via. Sì, ma comunque, è così. Anche mamma ha lo stesso problema, c'è il bacolinetto. Forse però mamma è più grande di tua madre, mamma ne ha 85-86 ne fa, ad aprile, però c'è il baccolino, e c'è questo cacchio, questo porosci. ho visto che come tutto già non prende delle bustine, sicuramente c'è quello per rinforzare, però ho visto già si muove abbastanza bene, non sta più guidando ma comunque già si muove bene. Beh, le donne ce l'hanno, Claudio, dopo che arrivano alla menopausa solitamente le viene un po' più osteoporosi. Sì, mamma ce l'ha, non beh, si abbasso a chi sì. Va bene. E allora oggi, quindi sei a casa, cosa c'hai? Influenza, cosa c'hai? Sicuramente qualche contraria a tutti, perché lavorando oggi mi ha acqua e acqua da sopra e acqua da fianco, da te infatti. Ci ha mangiato altro giorno stesso, ne abbiamo preso acqua e io non ero abbastanza contento, ma partita di pieno. Ehi. Sono uscito da poco, io avevo un chitarrissimo, un brutto cracco nella gola, di tutto ci avevo. Ascolta, e Mauro Gianni sta sempre lavorando, sì? Sì, ma mi manca poco per adesso in pensione. Beh, quanto a me, è una vita che travagliene, quindi sicuramente quest'anno ce la fa anche lui, con la contributiva, perché Mauro dovrebbe avere una quarantina d'anni di lavoro anche lui, capito? Quindi sicuramente quest'anno sicuramente va, è un lavoratore precoce, va anche lui. Vabbè, meglio così. Salutamelo quando lo vedi. Avanti già. Ehi, vabbè, poi oggi c'è sempre corrente, si è esposta a tutte le tempere, alla zona del Moro, via Lugriglia, tutto aperto. Poi quando c'è mareggiata e cosa che c'è vento, ui. E vabbè, qua ci vuole fare. Tutti prendiamo, anche io che ho preso tante quest'estate di tempere, infatti sono tutta gloria là. Pioggia, vento, quello che c'era, io stavo sempre lavorando sotto l'acqua, eccetera, eccetera. Tornavo a casa che mi avevo un putino piscendo da lui. Poi via, tutte le mutande mi fundito, tutto gatto. E vabbè, cosa si può fare? Avanti, è una tappignara, che oggi non bevi più. No, sto dicendo che ancora mi manca parecchio, mi mancano 2-3 anni ancora che arrivo. Addirittura, forse simili, perché ho iniziato prima io di lui a lavorare con la cooperativa Quattro Mori nel 79, forse sì, un paio d'anni ne mancano ancora sicuramente, vabbè, l'importante è che si vada poi. E diciamo, fa vedere Deva, che si vede uno che ha pigliato Eva, io sono tutto a pezzi, ma dolore, mi alzo la mattina, ci vuole un quarto d'ora prima di rimettermi in piedi, vado una motozappe a gasolio agricolo, tutto a pezzi, poi c'è una cervicale che non ne parliamo, sono in cura ma non c'è niente a fare, mi sto stufando. Metto di mettere il collare 3 volte al giorno, ma no, il collare, lui, acqua è freddo che non ho preso io, ammazza che in varia, e vabbè, lui, soprattutto quando c'erano i lavori stradali, ero nella zona di Olbia, poi è vata a porta, dai apriamo già non piove, manca a metto della mia a moglio e via stivali, tutte di quelle a bretella con gli stivali fino alla pancia e in mezzo a leva, vai che ce n'è. Ci vuole un buon reumatologo, Claudio, io non ne conosco, ma se c'è un buon reumatologo io conoscevo, ma già lo conosci, ci vuole il mascotte, lo conosci, e quello lì c'era tutta la dolore, era da un reumatologo e gli ha fatto passare i dolori, capito? Ah, cosa stai dicendo a Sergio? No, il padre. Ah, Luciano. Oh, ma poi è ancora vivo, Sì, è vivo. Poveraccio. E a Luciano, sì, vedevamo che fa l'aspetto. Lo sapevo, la verità, perché so che era un periodo che non era stato bene. Ma non ha fatto cosa fare nessuno, a fare la parola. forse andassi di noi. Poi con l'applicazione Midland Cibital mai nessuno entrerà nuovo. Cioè, cos'è questa applicazione? Cosa così? Vado. Allora, la Midland ha fatto un'applicazione simile a Gello, con l'aspetto di un'Alan 48, e puoi parlare o sui canali nazionali, dove c'è un bel di gente, peraltro sconosciuta, oppure sui canali locali fino a 30 km. Quindi fino al Ghero prendiamo, Protore se non ne parliamo, forse anche Sentino arriva. Si chiama CB Talk con la K e si scarica dal Play Store. Ah, bello. C'è il tasto disegnato, tu premi il tasto e parli. C'è, ci sono i gruppi e ci sono i canali locali. Calma, per il momento sì, lo faranno pagare tu, perché non mi sembra possibile una cosa del genere. Cosa guadagna la Midland? Non comprano più baracchini se mette questa cosa. Sicuramente già sta facendo degli accessori da attaccare. Infatti già anch'io ho pensato così. Mi pare strano che ci perda per i baracchini, perché la gente, poi chi può lo compra il dual mic, chi non può non vuole e non ne compra. E ho idea che prima o poi passi a pagamento. No, perché qualcuno mi aveva detto, è gratis, è per sempre. No, per sempre no. Se loro vogliono o la tolgono, non dico adesso ma fra 1, 2, 3 anni, oppure la fanno a pagamento. E se la fanno pagare è la volta che la tolgo. Adesso me la scarico. Diciamo, non c'è cosa c'è di comodità, che in macchina non ti devi mettere l'antenna, se vuoi parlare ti fermi una quadrata e parli. Io poi che c'è Bluetooth in macchina, non attacco Bluetooth e sento, vabbè, il tasto devo premere lo stesso ed è finito. Ah, ecco perché c'è questa abbandonata la resistenza, ma io c'è che c'è stato questo tasto di più. Poi, ti stai dicendo che secondo me l'hanno fatto per avvicinare i giovani alla frequenza, capito? Non ho fatto questa cosa qua perché di modo... Quale frequenza? Ti piace internet? E qua hanno fatto questo atto per avvicinare tutti i giovani alla frequenza. Non è così, ma... Eia, anche se poi frequenza tutto internet. Se vogliamo essere pignoli è frequenza, perché il 4G dove lavora? Quanti gigahertz? Cosa abbiamo noi? 900 megahertz in Italia, 800? Non mi ricordo. Praticamente sarebbe la banda 20, il 4G LTE si chiama banda 20, va a bande, no, fettine di frequenza diverse in base al paese o al tipo di servizio. Wow. Sarebbe stato bello se magari io parlando al baracchino tu mi sentivi da quell'applicazione, potevi parlare con me, io parlavo al baracchino. Com'è questa cosa? Sì, Talk, Tango, Alfa, Lima, Kilo. No, mi sa che non lo devi mettere, deve essere solo CB Talk. Naturalmente tu la metti, ma la provi, ma poi dovrei entrare qui, non lì. Lì, adesso ti faccio una prova, voglio vedere che è online. Nessuno, casomai uno, il solito, vediamo, senza pomponi o ti stanno fischiando le orecchie. Scaricatela con l'applicazione oggi e poi la provi, ti metti nel 14, c'è un gruppo. Siamo noi praticamente nel canale 14, nel canalizzato, oppure puoi ascoltare quello internazionale, capito? Cioè, è una cosa bella, interessante, ma a me non me ne ha fatti nulla, io se devo entrare in radio entro qua, devo stare con il telefono in mano. Poi Eugenio, quando ti apri l'applicazione sotto c'è un tastino, se lo mandi a sinistra vedi le cartine da dove modulano, e da un'altra parte invece sulla destra c'è il radar. Facci sapere, dopo ti chiamo a vedere se è capito. Vado a accendere, c'è solo un quadrato, un tondino, praticamente uno sui canali nazionali ed è a nord, tale, vabbè, non dico il cognome, ho messo nome e cognome questo. Ma doveva andare lì, ma perché mettono la fotografia di tutti questi cazzati? Aspetta un po'. Allora, Gianni è connesso, Giulio Dollaro è connesso, però non è qua. Io sono connesso. Ma come mai Pomponio c'ha una sbarra sopra? Sopra l'icona c'ha un divieto di accesso. Cos'è successo? Sì, sì, il gruppo nel canale 14 canalizzato. Ah, non lo so, vuol dire l'hanno bannato. Perché cosa ha combinato? Lì non si può parlare male. Anche dicendo così a titolo scherzoso, perché Antonello lo fa anche a titolo scherzoso, però bisogna vedere. Quella è una bannatura. Caspita. State attenti a queste cose, non è da scherzare. Come ho già detto il PMR, di parlare bene. Perché il PMR è controllato, Sono sempre delle frequenze UHF che c'è sempre qualcuno che controlla e poi magari per uno ci piangono tutti, bisogna parlare bene, non c'è niente da fare. Mamma mia, c'ho la batteria al 24%, non mi durerà. Mi. E chi è quello? Chi è Marco? Ma chi è che sta parlando lì? Aspetta che abbasso, mamma mia, aspetta che abbasso. No, non è sulla mappa Eugenio, forse lo sta configurando, bisogna mettere nome, il codice di verifica all'inizio, no? Ma perché non vuoi andare al cinema, se che stai al baracchino? Al circo dobbiamo andare. Al circo va bene, vedi, soprattutto per quelli come me, che non bevono alcuni. Tutti i succhi di frutta io mi consumerei. Al circo, a circolo, circo. E io tutta la caffetteria. Ah, al circo altre persone, di un altro canale, quindi sì. Finita la chitarra, giù il voto. Finita, io ho una giuriata a tutte per non perdere i pezzi. No, fin quando adesso non ho proprio il saldatore di quelli potenti per saldare appunto quello dove c'è l'alluminio, e cioè il tubo, non rimontarlo per poi per fare cosa, smontarli no. No, ho impacchettato la minuteria e poi l'ho avvolto col nastro isolante e dunque l'ho legato al tubo stesso. Un salvatore che scaldi abbastanza perché devo saldare la bobina della mantova turbo sul tubo a 45 mm di diametro, e cioè che è in alluminio. Siccome c'è una bobina, qui ti ho mandato anche il messaggio, ti ho mandato anche, se tu apri il telefonino lo vedrai, c'è questa bobina che deve essere saldata, perché se no tutta la volta è ribattuta e si molla. Ci vuole una saldatura a pistola. Ci vuole una saldatura a martello probabilmente, quella che scalda veramente, perché deve scaldare un tubo praticamente. Tubo inteso come tubo d'alluminio, grosso 4 cm e mezzo di diametro. Come posso andare nel mare? Ehi, su che vuoi, quella a martello, lì c'è degli sagnini. Se no, dai anche che la mia vita me lo posso fare a cannello. L'applicazione è legata al numero di telefono per trovare i contatti, come può essere WhatsApp. Metti anche il numero di scarpe, anche il numero di scarpe mettici. E così è, e beh Marco. Oh, arrivo subito e mi faccio un toast. Va bene, fai un toast. Ora vedo. Quando mi sono vicino, le cazzo oggi mi intende. Come l'erina è fatto. Lascialo fare che deve crescere ancora. E Marco, non le mangi Marco il cioccolato? Allora già, diciamo anche fortunatamente, dopo l'operazione, mi è, non dico passata, ma quasi passata la mania del cioccolato, anzi potrei dire l'ossessione per il cioccolato e per i dolci. I dolci adesso li mangio con molta moderazione e ho ridotto anche il consumo di caffè. e anche gli zuccheri, perché io prima nel caffè al bar ne mettevo due bustine, adesso una. Nel cappuccino ne mettevo tre o quattro, adesso due. Sto cercando di dare un giro di vite, se no qua andiamo male. Ma come ho fatto te dai dolci? Ecco qual è il problema. Poi man mano che si fa qualche colletta non è certo un partetto che sia ancora giovane, non è il tuo caso, ma come si fa qualche colletta bisogna darsi un'aspettare di vite di certo, perché se no poi io non è tutti di male. E comunque tutto bene, Marco, cosa stai combinando in questo periodo? Poco e niente, già non... purtroppo è una brutta bestia la depressione, capito? No? Non dico che c'è pensieri brutti, cioè non hai voglia di morire ma non hai voglia nemmeno di vivere, capito? Sei in una specie di limbo, così non... mi salvo un po' lo smartphone, mi guardo le notizie, mi guardo video YouTube. Non stavo più entrando al baracchino, salvo quanto, tre giorni fa, due giorni fa, non mi ricordo più a voi. Proprio mi era calata la passione, anche perché era deserto, no? Come non entravo io non entravano gli altri. Giustamente, più ne manca, sai, ne manca uno, ne mancano due, poi non si forma più la ruota e tutto finito. A proposito, ho pagato l'altro giorno la il bollettino, il contributo. Stavo per non pagare, ho detto no, che poi se esco con un PMR c'è un controllo, è un macello. Va bene. Comunque non ci posso credere che abbiano bannato Pomponio, Caspita, sui canali nazionali ci sono quei ragazzetti napoletani che bestemmiano, che dicono parola c'è tutta, non li bannano mai, e hanno bannato lui. Dopo gli telefono, voglio sapere cosa ha combinato. Antone, ci sei qua? Non l'hanno bannato, l'hanno scannato. Marco, se vuoi un consiglio, dati una scrollata addosso, esci, non stare attaccato al computer a queste cose, esci, fate un giro di amicizie, se dovresti in casa è peggio, La depressione aumenta, bisogna cercare di uscire, di frequentare gente. Io questo anno da fare, questo periodo sto uscendo, sto facendo, non resto in casa. Break, va. Ciao ragazzi, Franco da parte mia. Ciao, dopo tanto, ben sentito, dai. Che fine avevi fatto, Fra? Ciao Gianni, ciao Marco, ciao Claudio, se all'ascolto. Ho sentito che stava mangiando. Ciao anche Eugenio, che non sento purtroppo, sento il bip. Ciao anche Giulio. Avevo smontato l'antenna perché c'era l'impresa che stava rifacendo la facciata, adesso l'ho ripiantata, però è sempre bassa. Potrei metterla sul tetto direttamente. Ci vorrebbe un palo, come si deve, dai, non si può fare una cosa. Bisogna rompere la tegola, mettergli un bel palo e poi sigillare il tutto, ma lo faremo male più avanti, vedremo, dai. Caparella riesci bene, qua per loro era anche bellissimo. Sì, no, anche tu qua. Qui arrivi a bomba. Ci stiamo quasi vedendo con le antenne. Riprendi Marco lì. Marco? Stavo pensando a quella specie di divieto che vede lui, che non sia. Che non l'abbia messo lui in lista nera, perché c'è anche una lista nera. Tipo una chat, non ti credo, c'è il moderatore, sicuramente l'hanno fatto fuori perché dice parolacce, sicuramente. No, tu c'hai un menu dove puoi bloccare una persona che da te è indesiderata, lo metti in lista nera, quindi lui non può più entrare nella tua, a contatto con te. Sì, ma è una cosa tua personale, non di tutti, invece Marco è entrato e l'ha visto bannato lo stesso. Non lo so, io non sono entrato, adesso va facendo, aspetta. Sono io con la segnalata a Pomponio, ho preso il numero, ho preso e l'ho fatto bannare io, cosa state dicendo? Ma insomma, c'è buona volta a capire, sono io che l'ho fatto bannare. Ciao Franco, salutoni, ben entrato, dopo tanto, vabbè, ci siamo sentiti a Natale tramite telefono, per cui va bene lo stesso. Avanti con la Gianni. Sempre con quella terrorista stai uscendo, quella che hai fatto tu. Sì, sempre quella, è che non ricordavo la polarità, siccome non è la tacqua a piede, l'avevo fatto a, come diceva, a Bulloncino. Adesso va collegata, ma non so se ho sbagliato la polarità, ma non credo. Basta provarla. Voi mi sento bene. Io penso che stia uscendo bene, quindi. Invertendola non penso che l'antenna funzioni bene. Sì, ma va bene, dai. Va. Comunque qua, gli amici più importanti almeno li ascolto, mi dispiace per quelli più, un po' più lontani, specialmente verso Porto Torres, quella zona mi è coperta dal palazzo, quindi non li sento. Loro a me mi sentono, io invece sono sordo in quella direzione lì. Comunque ciao Giulio di nuovo. Ciao Franco, ben entrato di nuovo. Sì, beh certo, no, già funziona l'antenna, io a Puglia. Anch'io faccio ritardo di un'antenna così, come avevamo parlato tempo fa, per cui sto uscendo anch'io, sempre nella posizione più bassa della casa, il che significa 6 metri più in basso di dove c'era prima la mantova a turbo. Per cui va bene, va bene. E io ormai ce l'ho già oltre un anno e mezzo. Già va bene, un pezzo di filo così in aria, in verticale, e funziona alla grande. Ho parlato su quest'estate, ho parlato diversissime volte anche con la propagazione, naturalmente anche all'estero, per cui già va bene, fregatene alla grande. Vediamo se è rientrato Claudio. Claudio, guarda che lo vedi dalla rubrica di Civitalk che è bannato. Ok, ciao Franco, sei entrato, eccetera eccetera, purtroppo la batteria mi sta lasciando perché ce l'ho acceso da ieri mattina. Vabbè, fa niente, dai. Questa applicazione di cui si monta la batteria, nel senso per caricandola, alla fine sbaglio la batteria del telefono, ti costa la banca di studi. Io ogni tanto mi va proprio di là. Usate il tablet, chi ce l'ha usi il tablet, che dura molto di più. Io uso il tablet, dal telefonino l'ho tolta. Per cui uso il tablet che dura almeno 3 o 4 volte il telefonino. E mi va benissimo. E poi tra l'altro devo dire che c'è anche una modulazione più bella, più chiara, più forte, sia in trasmissione che in ricezione. Va benissimo. E tra l'altro anche sul tablet si vedono anche tutte le facce sporche che ci sono in fotografia. Hanno fuori la mia perché io la fotografia non l'ho messa. Avanti Franco. Guarda, adesso l'ho riacceso e non parte, devo spegnere il cellulare e riavviarlo. Se lo fa anche a voi che a volte va in crash, quindi si blocca, dai. No, termina l'applicazione solo. No, adesso proprio neanche accende, vado a commutare il tastino ed è fermo, adesso ho spento, riavvio il cellulare e ci riprovo, dai. No, termina solo l'applicazione. E da dove la termini? 14. Ma adesso sono su 14, ma c'è il CH. No, devi mettere anziché group, devi mettere canali, CH. Ah, ok, sono su CH. Vai al 14. Come? Vai al 14 con quella rotellina dei canali, come quella del barattino, quella che c'è sotto i canali. Vai su 14. Siccome è un po' sono regolazioni, praticamente metti il dito a fianco alla rotella, no? Anche per il volume, per i canali. A fianco e lo sposti in alto e in basso il dito. Devono farlo meglio la regolazione. Mi sta comparendo. No, non girare. Sono su 14. Come devo fare per rispondere? Ma c'è musica su 14? Allora Eugenio, metti il mic gain a 2/3, ripeto, mic gain a 2/3, non oltre perché sennò assorda. Ma perché così la manetta? Di lusso già, di lusso, sembri amplificato anche. Map, a sinistra in basso, map, premi map e ti si apre una mappa molto, diciamo, vabbè, le spiegazioni a dopo, da. Tornato 27, aiuto. Io sono in ambedue. Mi chiedevo una cosa già. Aspetta che abbassi. Ma secondo te il CB, come si chiama? Il mic, il dual mic, si può adattare ai quattro poli del 3009? Penso di sì, basta cambiare la piedinatura in modo da passare con lo stesso microfono da baracchino a applicazione. Sembra una figata, Sì, lo so. No, perché in teoria nasce per il 48, no? C'ha la piedinatura, prima basta saldare i filettini, perché stanno abbassando i prezzi, prima era 130, adesso lo trovi a 118, e secondo me scenderanno ancora i prezzi. Ascolta, sono quella di te, ne ho sentito uno con quel microfono attaccato e usciva come gli altri, non si sentiva l'amplificazione di nulla. Boh, io non vedo perché devi spendere i soldi quando esce bene lui. Però sai cos'è? Mamma mia, che aspetta che abbasso per... ti dicevo, allora quello lì è per il baracchino, è un microfono amplificato e lì già non si sa come uscirà. Bello che io, come sto parlando con te adesso, non faccio altro che selezionare un tasto e parlo sull'applicazione con lo stesso mic, quella è la comunità, cioè non devo stare con questo smartphone in mano, preferisco il microfono, è più ergonomico, si prende meglio in mano, senza battute. E cioè cos'è che hai fatto? Nulla. No, dicevo che il dual mic, se avesse un prezzo ragionevole, li saldi, siccome quattro poli, no, l'uscita, li saldi la piedinatura, te la fai per le 3.900 nel mio caso, e tu con lo stesso microfono, con un tastino, puoi selezionare applicazione o baracchino. Non devi stare con lo smartphone in mano, capito, col microfono dall'altra, come stiamo facendo adesso. Purché il prezzo sia... Guarda, prima era 130, adesso sta scendendo 119, forse anche 115. Sempre caro, però. No, perché lo devi tenere in mano il telefono, ho capito. Io lo appoggio nella base e metto il dito sulla portante, come faccio normalmente col microfono normale, non c'è bisogno di tenerlo in mano. Vabbè, comunque io me ne sono uscito, non mi interessa, siamo qua, rimango qua. L'hai visto sulla rubrica il ban su Pomponio? Magari hai risposto male a qualcuno, ma pare strano perché non è che ti bannano così, no? Tu pigliati il telefono a vedere cosa ha combinato. Vabbè, lo sai come è Antonello, a volte ma scelta a parlare di cose così, naturalmente scherzando perché lui lo fa a titolo di scherzo, però no, quella è una bannatura, fottidini. L'ho già vista in quella internazionale, ce ne sono due bannati. Sono qua e anche là, tra l'altro, di apparecchio, considerato. Ciao Antonè, cos'è successo? Vedo che sul tuo nome c'è una sbarra, tipo di vieto di accesso. Posso ascoltare, ma non posso parlare in pratica, aspetta un attimo. Che abbasso, se no faccio lo spengo. Aspetta due secondi. In pratica sono entrato in un canale brasiliano, e mi hanno risposto male, mi hanno offeso in pratica, ho preso e senza prendersi, aspetta, siccome io non sono abituato a farmi prendere per il culo da gente esterna, allora ho preso e ho buttato la bottante ieri, alla metà, in mano e mannatissimo di male di viaggio giusto. Io ho detto, guardate che anche tu hai detto sarei bannato, non ti preoccupare. Prego, un attimino. Antonio, ti ho passato a bannare io, Ti ho dato il numero di codice che c'è, basta aprire la rubrica c'è un numero di codice. E sono io che ti ho fatto bannare, così almeno la smetti. Riprendi, Antonio. Ma non è giusto, lui, dato funziona, l'altro è a posto, non ho problemi, a me non è che mette che poi tanto. Ci sono due liscio, c'è quello che adesso e c'è anche l'altro. Quindi posso tranquillamente parlare, non è che mi hanno fatto dispetto a me. Aspetta che c'è Gianni che stava, che voleva qualcosa. Sì, vi saluto sicuramente che è arrivata gente, grazie per il QSO e buona serata a tutti. Ciao Gianni. Ciao Gianni. Ciao Gianni, dai, la batteria qua, adesso lo stacco quel programma perché l'ho messo in ricarica. Ciao, alla prossima. Vai Franco di Monte. Ciao. Ciao Gianni, ben sentito, alla prossima. Ciao Claudio, riprendi. State parlando, non so parlare. Lasciate un attimo il bianco, c'è Eugenio Zotto, c'è Franco di Sorso. Non si comprende un accidente. Cosa ha detto Eugenio? No, sto soltanto Ok, allora. Va bene, Giulio c'è, vediamo se c'è Franco di Sorso. Fra, ci sei? Caffa che ci sono, buonasera a tutti. La ruota si è ingrandita, molto bene. Sì, siamo qua, siamo, si è caricheggiata la batteria. E quindi Antonio, praticamente tu sei entrato in questo... con quale diritto loro si permettono di parlarti male? No, non ho capito. perché quella è una bannatura, ci vede. È una bannatura. Vabbè, ma usa di una futti, usa l'altro. Cosa te ne frega? Ma non c'è tratta nelle cose. Chiamiamo il canale nostro, stiamo nel canalizzato nostro, usiamo una futta per andare a far vedere con l'altri. Sì, io infatti l'ho salutato. Anche poi non mi risponde male, fatto che era anche l'amministratore, Erri si chiama. Quindi figurati tu, io faccio parlare, io mi vado io sulla giubbuccia abbordante. Si è cazzata, va, preso mi ha bannata, gli ho fatto il banna, tanto già ci ho dato i telefoni con tre carte, quindi posso entrare come quando voglio, non come ti voglio, c'è poco da bannare. Ma dico, con quale diritto si permettono di parlare male? Cioè, se uno entra a salutare educatamente o in modo scherzoso come fai tu, non hai bisogno di dirlo a vita male. Beh, allucinante. Vabbè, fregatene. Comunque rimaniamo nel nostro, futtidini. Avanti, Franco di Sorso, che tu sei l'ultimo entrato, vai. Ciao. Allora, per quello stasera ti stavo chiamando e ci avevi il divieto di sorsa, ci avevi. E non mi ha fatto entrare. Ehi, avevo il telefono celeste, infatti ti sentivo a te. Sono andato a risponderti. A rispondere lui risponde, però non so dove c'esce. In pratica, però c'è la ciuda in rosa, capito? C'è il telefonino l'alto. Dato LG, che in pratica c'è lo stesso numero attivo Alessio, quindi posso tranquillamente risponderti, non è successo niente. A me la bandata da sua, ma come le balle me le passa, capito? Va bene, avanti Franco. Sì, mi senti qua? Franco? Sì, via. Invece sentirmi anche a sorso? Sì, sì, a voglia. Segnale di 5, radio 5. Ok, oggi ti ascolto meglio anch'io, Volevo dire, Alessio, ma per quanto dura questa bannatura? Ah, boh, non me ne frega nulla a me, per me può durare anche tra... Ha tirato questo floscio e mi ha capito, mi ha risposto male. Italiano mi ha offeso in pratica. Ho preso l'indomani e ha voce da bottante, facevo ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Allora ha tagliato, mi ha bannato. Guarda, ci sto proprio piangendo qua per quello. Tanto già c'ho l'altro telefono che funziona, quindi non me ne fotte nulla. E anche tonto, perché ci sono tutti e due lo stesso nominativo, anche se cambia il numero del codice. Ho visto, no, il tuo nome mi appare, ma non era bannato. Comunque fregate, là ci siamo noi qua. Claudio? Sì. Io roba da parlare, non è che devo usare troppo il telefono. C'ho questo, c'ho il PMR, c'ho l'LPD, ne ho di baracchini, vediamo che sai, vedo. Ma ci piace proprio la notte, guarda, mi metto a piangere per quel motivo lì, non mangio, mi la metto a salire. Andà bene, avanti Marco. Vabbè, ma io lo so come fanno anche in certe chat, come vedono l'italiano, iniziano, italiano mafia, spaghetti e mandolino. E lì bastava chiudere, punto, non c'era bisogno di mettere portante e farsi bannare. Vabbè, non è un problema, c'hai varie schede, però se non sono gradito chiudo io, poi non vado su quei canali infami, poi i brasiliani hanno molto da dire, gli italiani, un paese di criminali. Va bene, io adesso mi mangio qualcosa, non ho pranzato ancora, dai, faccio girare per voi, vai Claudio. Sì, dai, facciamo girare, Giulio riprendi. Ok, sì. Vabbè. Sai cosa dico, Antonio? Bisogna comportarsi sempre bene, dunque uno quando si comporta bene il problema non è. Comunque non hai preso niente ad ogni modo, non è un problema. Se fai di nuovo una nuova iscrizione, magari non so se hanno bannato il numero o la scheda tua del telefonino, ti fai una nuova iscrizione col telefonino di tua moglie e vai bene lo stesso, non problema, cambi nome e non se ne parla più. Tanto è loro, se no, non ti riconoscono, non ti possono riconoscere. Tutto lì. Va bene, avanti Franco di Sassari. Capo, quindi era un canale straniero addirittura, non era neanche roba italiana, vabbè. Giulio, nei tuoi confronti sono cambiato rispetto a qualche mese fa? Sempre il 9 più 5 abbondante, radio perfetta, chiara, bella, ok, eccetera, eccetera. Meglio di così è impossibile come radio soprattutto, considerando le mie condizioni e anche le tue. Per cui va benissimo, non bene, benissimo. No. ok. Anche da te, Claudio? Sì, sì, sì, perfetto. Avanti, Eugenio. Lo senti, Eugenio, fra? Sento il bip, sento, e basta. Non ti sentono, Eugenio. Io già ho detto, basta, ma non senti. Io non sento da lui. Vabbè, è un problema suo con l'antenna, non c'è più ricezione, quindi lui lo senti. Vabbè, ok. E comunque non succede niente, cambi i nicchi, ti metti pomponi anziché Alessio, esce a Bignani Lucci. Avanti, sorso. Capo, no, il problema sai qual è, capo? Lui con lo stesso telefono non può più fare un link, non può più entrare, capito? Perché loro non è che mandano la, come si chiama, il numero progressivo che si è scritto, mandano il telefono, loro sanno, non so se la scheda o cosa è che mandano, e con quel telefono devi cambiare il telefono per entrare, perché questo l'ha detto l'amministratore oggi. E non ora già sta in capo, lui che c'è un bar telefono, ma fa vedere anche se guarda imbecilli. Poi, Antonello già ne ha altri telefoni, c'è anche un altro numero, quindi usa quello e cambi, anziché mettere Alessio metti un pugno, usa di Nafutti. Riprendi io, Antonello. No, c'è scritto Alessio nell'altro, e quindi funziona, funziona anche bene. Qui non ho problemi, se quando devo parlare parlo con un, con l'altro telefono, con quello nuovo, lui legge il nuovo, quindi già ne ho dei telefoni. Telefoni di macchina, c'è anche quelli della 3 addirittura, devo prendermi la carta, se no ci metto la carta lì, faccio la stessa cosa, aspetta un attimo che mi chiamano Simone. Se no prendi la carta igienica, vai Giulio. È meglio. Aspetta, io rientro subito. La scopo è quello della Midland e oggi, infatti comprare il microfono, se non l'avendo più in mano, è 119,71 euro. La scopo della Midland è quello, non è che ci ha fatto un regalo per farci un favore a noi, no. Ha fatto questa applicazione per cercare di incassare soldi loro, apparecchiature soprattutto, per cui soprattutto il microfono, il dual mic. Con quello ci sono i tasti che puoi fare, versione baracchino, CB oppure versione applicazione, e infatti c'è stato qui, se sta tenendo in mano, e beh, si sa, il telefonino è tutta un'altra musica, ma io siccome lo uso a casa, a me di questo qui del microfono non me ne frega proprio per niente, tanto più che uso il tablet, perché ripeto, il tablet intanto ha più giga e poi ha anche più durata la batteria, perché è grande, è un tablet da 30 cm, per cui va anche meglio. E così, avanti Franco di Sassari. Sì, poi non so se anche a voi succede che consuma un sacco di batteria, se non sbaglio anche quando non usi l'applicazione che è in stand-by, secondo me è calato anche calata la durata della batteria, anche a voi? Sì, è sempre in connesso, sì, si è sempre connesso e consuma, sì certo, consuma sempre la batteria. Avanti, riprendi, fai girare, fra. Sì, quindi no, non è un problema di batteria, io l'ho cambiato, l'ho sostituita, non vorrei sfruttarla un po' troppo perché scalda parecchio, riprendi, fra. Sì, vabbè, io quando lo tengo in stand-by c'ho il cavetto lungo, glielo lascio attaccato nel caricatore, no, non è consuma batteria. Normalmente come si fa quando parli al telefono a lungo, capito? C'ho il cavetto lungo, collegato, insomma vabbè, sono uscito, però c'ho la batteria all'85%, però l'altra volta l'ho lasciato attaccato e stavo ascoltando e non mi si è scaricata la batteria, stavo ascoltando lì in corrente nazionale nel canale 8 e c'era un bel QSO, però no, ma è va bene, l'applicazione è ottima, è interessante, così anche ho visto che c'è molta gente che usa per lavoro, però il problema è appunto è quando quando lo usi che sei in macchina devi avere per forza il microfonino, perché ho visto Giulio dei camionisti che l'hanno già fatto, hanno comprato il microfonino e lo applicano lì al cruscotto e praticamente parlano col microfonino. Vabbè, si chiama MPD a 615 euro, ma poi si applicazione, ma mai si veglia. A me questo non mi interessa il microfono, tanto più che io in macchina non ci devo parlare, e se poi ho voglia di parlare ci metto poco, faccio l'applicazione sul telefonino, mi fermo e parlo e non ho bisogno del microfono, come è già successo. Però devo dire che questo mi succede molto ma molto raramente, per cui non mi interessa. Io ci parlo quando sono a casa e ripeto ancora una volta dal tablet. L'altro giorno ho fatto l'applicazione del tablet di mia moglie e gli ho detto, guarda così e così, torniamo immediatamente, che a me non mi interessa queste cose. Per dirti, no, glielo tolto subito. A lei non gli interessano queste cose. Allora cosa ho fatto? Ho preso e gli ho messo la partita di calcio, TV Tap. Anche quello. No, quello lì guarda lo posso anche accettare, non mi interessa niente, anche se io dice non lo guardo mai. Quando ti interessa dice puoi prendere anche il mio, perché è leggermente più grande anche il tablet suo, no? Però io ho il cavetto per poterla utilizzare anche con la televisione, e dunque quando mi occorre la guardo con la televisione da 44 pollici, per cui problemi non vennaggio. Va bene, facciamo girare, dai. Avanti, Franco di Sassari. Sì, capo, comunque si può guardare anche qualche bel film, c'è Sky, la signora si può anche divertire con i film. E poi, quanto ho capito, l'hai collegato al televisore, che poi mi dirai che cavetta hai utilizzato. Sì, ho un capo che non so nemmeno, aspetta che guarda se c'è scritto qualcosa, te lo posso anche dire, problemi non ce ne sono. Aspetta un attimino che lo guardo. Sì, no, ma lei, non sai come sono le donne, abbonate a Canale 5, dove c'è Amici, dove c'è quelle pettegole che gridano continuamente dalla mattina alla sera, quelle donne, prima gli anziani, cioè i vecchi e poi i giovani, sai, questi programmi guardano le donne, Barbara D'Urso, insomma le cose che odio io non le guardo mai queste cose, per carità. Ah, quella del processo che c'è alle due la sera, io lo vedo alle due, però c'è anche la mattina quel processo che fanno non mi ricordo come si chiama, Barbara, la moglie di Rutelli, che poche parole. Sì, adesso guardo il cavetto, vediamo un po' se c'è scritto qualcosa fra. No, tu puoi vedere solo ed esclusivamente col tablet, puoi solo vedere esclusivamente tutto quello che è televisione, ma da tutte le parti del mondo, non solamente da Disastra, c'è tutta la RAI, canale 1, 2, 3, 4, 5, eccetera, eccetera, poi c'è il Mediaset 1, 2, 3, 4, eccetera, eccetera, ci sono tutti, c'è Sky, c'è DAZN, ci sono tutti, c'è tutti i canali. No, ma sto dicendo quello. La partita, a me mi interessa principalmente quello, io la posso vedere sia in italiano che in lingua straniera, il commento, perché ci sono diverse televisioni appunto che trasmettono in streaming anche in lingua straniera, cioè lo trasmettono per loro naturalmente, ovvio, come gli italiani lo trasmettono per gli italiani e magari gli spagnoli lo trasmettono per gli spagnoli e così via, e la posso vedere come voglio, insomma, ecco, si vede bene, molto bene. No, scusa Giulia, ma Eugenio chiedeva se con Cibital che può seguire anche le frequenze marine. No, c'è un'altra applicazione che non mi ricordo il nome, ok, dove ci sono le frequenze VHF e UHF che puoi seguire, perché noi come radioamatori ce l'abbiamo quell'applicazione, ma non mi ricordo, se entra a volte me lo faccio dire. Comunque c'è un'altra applicazione delle frequenze V e U. c'è, perché noi l'animatore ce l'abbiamo, però è un sito, l'ho letto qualche l'altro giorno, ma da tanti anni avevamo sperimentato, Marco aveva sperimentato, Walter, io, Fabrizio, però è una cosa che non mi andava. Addirittura potevamo anche linkare la radio e usare proprio le nostre frequenze anche in diretta, tipo transponder, capito? C'è quell'applicazione, però non mi ricordo. Marco, tu l'hai mai vista quell'applicazione delle frequenze VHF e UHF? Allora, io no, io però dal computer Windows mi ascoltavo l'HF con quelle radio SRD. C'hai un ricevitore virtuale a schermo, metti la frequenza che vuoi, il modo di emissione che vuoi, il filtro stretto largo che vuoi, però a parte i siti credo che abbiano fatto applicazioni, non so per la VU se ci siano, ma probabile, mi se te l'hanno detto ci sono. Sì, è proprio digitale, sistema digitale, non mi ricordo, porca miseria, bisogna che chiedo e ti faccio sapere oggi. Comunque c'è un link apposito per le frequenze VU e poi c'è un'applicazione che serve appunto per però non lo so se ci vuole la licenza o la patente. Mi sembra che noi ci avevano chiesto la licenza o la patente, ma il numero della licenza ci vuole. Come? Sì, ci vuole una nuova licenza, te lo dico già, perché io col digitale ho dovuto dare il numero di licenza per potermi attivare le VEU in digitale, sì. Ci vuole il numero di licenza, oppure per te può essere diverso, perché se usi le frequenze marine dovrai avere un numero di licenza per la concessione marina o UGE. Mica quello è Ecolink, Claudio. Quale? No, per parlare tra radioamatori Ecolink, vabbè, un'altra cosa. Sì, quello sì, ma c'è anche un'altra applicazione. Sì, UGE, ma comunque ti chiedono qualche tipo di concessione, qualcosa. A noi ci hanno chiesto come Ecolink, però per quanto riguarda le frequenze marine c'è un'altra cosa che ti chiedo. Diciamo che mi informo e poi ti faccio sapere, dai. Ah, io già preferisco sempre gli scanner fisici, portatilino scanner, tipo come era il Black Jaguar. Black Jaguar aveva il bello che potevi impostare i limiti. Cioè mettevi a partire da, che ne so, 156.00 a 162.00 e tu ta-ta-ta, avanti e indietro, bello era. Invece l'Uniden che adesso non fa impostare i limiti. Sì, vabbè, anche quello che avevo io era Black Jaguar, era limitato. Vabbè. Sì, no, ma io con quello digitale che ho, per entrare nei ponti, eccetera, ci vuole il nominativo e non la licenza. Poi per quanto riguarda quelle marine, non lo so, ma vabbè, basta informarsi uno. Qualcosa c'è comunque che ti fa sentire. Avanti, sorso! Cazzo! No, io non ho mai sentito che c'erano queste frequenze qua, che c'erano un'applicazione. Dove le scarico questa applicazione, Oclava? Sul telefonino stesso? C'era qualcosa, ma tanti anni fa. Però per noi radioamatori, quindi è un Ecolink dove ti chiedo il nominativo e il numero di licenza, altrimenti non si può usare, nel senso che non ti danno nessuna applicazione, non ti danno il consenso se non sei radioamatore. Questo per quanto riguarda il nostro l'Ecolink. Poi c'era un'altra applicazione, io la chiamo applicazione ma non è una vera applicazione. Per ricevere c'era un adesso mi ricordo forca miseria, ma sto parlando di tempo fa, dove c'erano delle frequenze marine e tu potevi ascoltare dal canale 1 mi pare al canale 16, una cosa del genere. Quella parte lì. E poi c'erano gli altri, il 72, il 74, il 68, eccetera. Ora me lo ricordo perfettamente perché era tipo canalizzato. E lo facevo io come ricezione. Però per quanto riguarda il sistema proprio di transito, non lo so che cosa ci vuole per poterla fare, capite? Per quanto riguarda quelle amatoriali da poter ascoltare nel telefonino, tipo questo CB Talk, ti chiedono il numero di licenza e il nominativo amatoriale, altrimenti non ti danno il consenso d'accesso. Scusate un attimo, Franco di Sassari, guarda il telefonino. Il telefonino è WhatsApp, guarda. Cappa, grazie. Ma se non ricordo male, avete scelto fare sulla VU, ma vabbè, a parte uno, sui due HF. Non c'era una frequenza che prendeva la capitaneria di porto? Il VHF c'è sempre quella della capitaneria. E 156, loro sono sempre, c'hanno il canale 8 e il canale 16 collegato. Uno è 156 e 400 e l'altro è 156 e non me la metto più. Comunque, dove rimangono fissi loro sono 156 e 400. 800 anche. 156 e 600 e canale 12. Dove ci sono chiamate di traghetti e di. Scusate un attimo, Franco di Sassari, se non si legge la lettura di quel opuscoletto che ho mandato, si chiama Chromesat, HDMI. Sì, no, lo conoscevo, no? Pensavo che collegassi TV TAP proprio il cellulare al televisore, forse non ho capito bene io, capito? No, c'è l'applicazione sulla porta USB del televisore, devi inserire quel filo che c'è appunto, diciamo con la piastra rotonda, c'è un filo da 10-12 cm con la spina USB che va attaccato al televisore, che naturalmente deve avere l'ingresso USB. Dopodiché si attacca col filo, con la matassina di filo, si attacca a quella piastra rotonda, a quella apparecchiatura rotonda, che poi va collegata alla spina, l'alimentatore sarebbe, che poi non è altro che un caricabatterie in pratica. E tramite il tablet oppure tramite il telefonino, lo stesso, puoi vedere appunto quello che vuoi, insomma, scaricando l'app TV TAP. Ok. Sì, dimmi. Allora, tu immaginate che io ho DAZN sul telefonino, perché mi hanno dato DAZN. Ok, per 3 mesi in prova. Quando sono le pareti su DAZN della Juventus, io non faccio altro che inserire il cavetto del telefonino, vado alla porta USB dello Smart TV, però con lo Smart TV, e vedo praticamente tutto i 48 pollici, vedo praticamente il telefonino, il video del telefonino me lo manda sul 48 pollici dello Smart TV. Non è quello che sto dicendo, gliel'ho mandato appunto sul WhatsApp a Franco per vedere cos'era il cavo che ci vuole. Però ripeto, bisogna scaricare sempre l'applicazione TV TAP. Vabbè, tu l'avevi già scaricata, te l'avevo già dato tempo fa, anzi mi sembra che sia scaricata anche Marco, per cui va bene. E si vedono tutti i programmi del mondo, compresa la televisione, comprese partite di qualsiasi sport, anche sci, biciclette, pugilato, tennis, pallacanestro, tutto, cosa vuol dire tutto lo sport in generale, basta che ci siano incontri, partite, se lo puoi vedere tramite quello. L'unica difficoltà qual è? Che leggermente, ad esempio, se io voglio vedere, tanto per fare un esempio, canale 1, tanto per fare un esempio, nel tablet o oppure nel telefonino, è leggermente indietro rispetto al canale 1 o reale che sta trasmettendo la televisione in quel momento, ma questione di 30 secondi, non di più, che capito? Per cui se uno non ha visto, per dire, o non ha capito bene una cosa, la può rivedere su quel canale. Stai guardando ad esempio la televisione e ti è sfuggita una parola o una cosa, attacchi subito quello e lo puoi vedere di nuovo. Ecco come funziona. C'è un ritardo di trasmissione, ma ripeto, questo sono i secondi, una trentina di secondi, anzi forse anche di meno. Va bene, ma c'è Franco Di Sorso anche, che non abbiamo più chiamato. Franco Di Sorso, avanti. Scusate, ma io non ho capito cosa usare, che si può domandare più conoscenza. Ci sentiamo, dai, a domani. Ciao ragazzi, a domani, ciao e buonanotte a tutti. Ciao, ciao, Luigi, elettrocio, Franco Di Sorso, dove sei? Capo, sono qua, ciao Luigi, ci sentiamo nel prossimo, dai, ci sentiamo, ciao, ciao. Avanti Franco Sassari. Sì, saluto Gino, se mi ascolta, sono qualcuno, mi fa da ponte. Però Claudio diceva che lui collega direttamente il telefono senza quell'apparecchietto, senza il Chromecast, capito giù? Certo che io collego, perché a me la Sky, cioè DAZN, mi ha dato direttamente la connessione diretta sul telefonino, capito? Praticamente solo sul telefonino per provare, anziché in TV, capito? E quindi io dal telefonino, siccome è piccolo da vedere le partite, allora gli attacco il cavetto dal telefonino alla porta USB, quindi uscita USB telefono, ingresso USB televisore, e non faccio altro che vedere la partita in diretta, però senza nessun ritardo né niente. La partita che danno, per esempio, sabato, che c'è Milan-Napoli, mi pare che ci sia, su DAZN, quella la guardo sul telefono grande, sul televisore grande da 48 pollici. Però deve essere Smart TV. Se non è Smart TV, allora ci vuole un altro tipo di applicazione. Sì, ma è così, io qua. E una volta che tu ce l'hai scaricata sul telefono o sul tablet, è chiaro, attacchi il primo e ti trasmette nel televisore, perché io lo faccio così? È uguale, no? E non cambia niente. Cioè è un'applicazione. Ma HDMI? Fare in generale. Cazzo, ma io pago le TV, per tutte le TV che private. Ecco qual è il discorso. Cioè, tu hai già l'applicazione, ce l'hai già nel telefonino, perché la puoi vedere anche nel telefonino la partita. Solo che la vedi piccolina, perché il telefonino si sa quanto è grande. Ci metti il cavetto e te la ingrandisce. E così faccio io. Io la vedo nel tablet, ci metto il cavetto e la vedo nel televisore grande da 44 pollici. Ecco come funziona. Tutto lì, sempre sul telefonino oppure sul tablet, non sul computer, questo è da sottolineare, non sul computer, ma o tablet o telefonino, ecco qua. Bene, bene, avanti Franco Di Sassari. Sì, sì, io conosco Chromecast, anche io ho pensato a prenderlo qualche mese fa, poi invece mi è passata la fantasia. Va bene, avanti Franco Di Sorso. Non ho capito che tipo di applicazione stavate dicendo, però quella tu Giulio. Niente, riprendi Claudio. Forse c'era Marco, vado via qualcosa, non ci siamo capiti. Io adesso ce l'ho in prova per 3 mesi, l'ho in prova per 3 mesi, non ho scaricato nessuna applicazione. Io ho l'icona DAZN, vado sull'icona DAZN, clicco DAZN e mi passo praticamente la linea del telefonino, perché ho più giga, ho 10 giga, anziché l'altro che ne ha 3 soli, capito? Direttamente vado a portarmi la videata in italiano, tutto in italiano, la partita normale che danno su DAZN, come Sky, precisa di dire, io non ho scaricato niente Giulio, ho chiamato DAZN, ok, e mi ha detto ok, le diamo 3 mesi gratis e lei prova, se in questi 3 mesi il nostro servizio non le piace, lei fa la disdetta, punto, basta, capito? Non ho nessuna applicazione, ho scaricata quella, l'ho scaricata sull'altro computer, però lì parlano in straniero, tutto incasinato. Questa è normale, DAZN, perché pagare 9,90 euro in più a Sky? Me l'hanno dato 3 mesi in omaggio per provare, dopodiché se mi piace, adesso guardo la prima partita, la guardo appunto sabato che c'è Milan-Napoli. Se il servizio è buono come Sky, allora lo tengo. Se non mi biasi, che dice che si interrompe, non si vede bene qui e là, ma io ho uno smart TV, capito? Quindi se si vede bene come le partite Sky, allora lo tengo. Se è una gaggada, le dico a tenerselo il servizio. Sì, ma tu l'hai comprato, tu adesso ce l'hai gratis per 3 mesi, ma tu l'hai comprato la DAZN, e questo sì, è normale, no? Se lo compri è chiaro che poi te lo puoi ingrandire con tramite sempre il caffetto o quello che sarà. E beh, ma l'hai comprato. Praticamente tra 3 mesi tu devi pagare e io ce l'ho gratis, sempre. Cioè, questa applicazione è gratis. E lo vedo come te, in italiano, in tedesco, in spagnolo, in francese. Applicazione pirata, diciamolo. Sì, io la voglio vedere, viene sentire il commento in spagnolo. E allora uso la rete spagnola. Io non voglio che riesci a farlo, mi sa, grazie. Uso la rete tedesca, lo voglio vedere in italiano. Lo posso vedere su Arena 1, Arena 2, Arena 3, Arena Sport, B1, B2, B3, B-zona. Sì, voglio dire, Uccello. 4, 5, 6, 7 e così via. Posso vedere su Sky 1, 2, 3, posso vedere Sky 24, quello che in realtà risulta canale 200 nella televisione, e vedo tutto lo sport, tutto in generale, tutti i commenti, tutto, quello vuol dire tutto indistintamente, senza tutto. Se prendi Franco di Sassari. Sì, ho capito. No, io volevo attaccare proprio direttamente il cellulare al televisore come fa Claudio, con un cavetto, invece il mio non è smart e non mi legge il... non riesce a codificare, diciamo, il mio segnale, capito, Giù? Si può, sì, si può. Va bene, avanti, dai, abbiamo un po' monopolizzato, avanti, Marco. Eia, allora Claudio c'ha quella cosa particolare, come ha detto, va tramite USB perché la sua è già una smart TV. Ci sono dei cellulari, di solito sono i top di gamma o medio alti di gamma, che hanno l'uscita, chiamiamola uscita, ingresso, uscita, si chiama USB tipo C. Solo nei modelli di top di gamma tu vai diretto da questa USB tipo C all'HDMI del televisore, proprio da USB-C a HDMI, cioè il segnale diretto, non stai passando né per smart TV, diretto. Io ero convinto che questa funzione fosse in tutti i cellulari con la tipo C. Quando ho scoperto che non era per tutti i cellulari con la tipo C, ma solo per i top di gamma, cioè cellulari da 600, 800, 1000 euro, e allora me ne sono fregato, ho preso un normale cellulare con la micro USB, mini USB di presa, capito? Poi vabbè, c'è il Chromecast, io l'avevo preso, va bene, diciamo, per i contenuti di YouTube, di Netflix, tutte le cose online. Brutto invece se fa il mirroring dello schermo, tutto saltella. I motivi tecnici adesso non ve li dico, perché... Poi c'è questa TV Zap che mi aveva consigliato Giulio, però Giulio, io ero convinto di trovare Netflix, tu mi hai detto che c'era tutto, in realtà Iris, già il canale in chiaro, non c'è. Poi Netflix, io contavo molto su Netflix, perché Netflix è a pagamento, quella è come se fosse un'applicazione pirata, che ti fa vedere gratuite cose che non dovrebbero esserlo. E purtroppo Netflix non c'è. E ripeto, puntavo su quello perché ci sono serie TV moderne e belle, molto belle, in prevasione. Infatti non la sto nemmeno usando l'applicazione. Va bene, chi rilancio? Franco, come ti devo chiamare? Franco del Monte, poi ci confondiamo con Franco California. Franco di Sassari, dai. Io ce l'ho già qualche mese questo TV Tap, ogni tanto lo aggiorno perché va in blocco, lo devi portare a aggiornare, sicuramente è una cosa pirata, non durerà parecchio, però per adesso sta andando, anche se dal zone la qualità è un po' scarsa, lo streaming è un po' intanto si interrompe. A voi invece con Sky all'80% le partite le vedi quasi sempre senza interruzioni. Avanti Franco Risorso. Certo, lei. Non lo saprei in merito cosa dire, perché non ho mai avuto di questo coso, niente. Dai Giulio, ripetere tu, io vi ascolto, vai. Come si chiama Marco, quel telefono, beh, il televisore è quello dell'ultima generazione? A parte Smart TV, qual è? Come si chiama? K? Il 4K, e pensa che hanno già fatto l'8K, un televisore che non so quante decine di pollici ha, praticamente è una parete, 8K, però sai cosa, se stai dietro a loro, caspitata, ci spendiamo un capitale, noi se ne fottimmo, mamma c'ha il Full HD ancora, io c'ho l'HD Ready. Non sono né Smart TV, perciò ho messo la Chromecast. Però ripeto, la Chromecast, se fate il mirroring dello schermo, cioè se trasmettete da schermo smartphone a schermo TV, è brutto, è brutto. Io ho provato a guardare i video fatti con lo smartphone, ma non... la qualità, poi ci sono i parametri tecnici, è un casino, me ne basta la gana. Ti rilancio, Giulio, vai Giulio. Ok, sì. Sì. Adesso stavo cercando, Marco, se c'è Iris, appunto, stavo cercando. Adesso sono sulla pagina di DAZN e incomincia con DAZN 1 fino a DAZN 10 come minimo. Guarda, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, tutto italiano. Poi passiamo alla tedesco, per cui vedi bene che ci sono. Poi adesso lo sto cercando, dai, e vediamo un po'. Come hai detto tu, quello non lo so, comunque lo cerco adesso. Se prendi Franco di Sassari. Ma ti conviene fare la ricerca solo esclusivamente con la bandiera italiana. Se fai la ricerca con tutti i canali, con tutti i link internazionali, ci metti una vita giù. Lo so, ma siccome qui mi apre la pagina, mi apro, e ce ne sono, nella pagina ce ne sono 3, 6, 3, 9, 12, poi la devo far scorrere in alto e continuo sempre, continuamente, sono con 4 ore girando pagine qua, ce ne sono poco di coso, ad esempio anche TV3, c'è TV3, c'è tutto. Ci sono Claudio, le radio, le stazioni del tipo Lazio ad esempio, Chelsea, Juventus, Milan, tutte queste cose qua, dove appunto si può sapere anche Milan TV, ecco ad esempio, oppure Juve TV, tutte queste, Chelsea TV, tutte queste cose qua ci sono anche qua. E uno si sintonizza lì e vede tutto quello che vuol vedere. Per cui sto cercando comunque, dai, riprendi qua. Sì, volevo dire a Franco, è un'applicazione che ti puoi scaricare sul cellulare, mi fa anche tu tranquillamente, si chiama TV Tap. Se c'è un telefonino un po' recente, ma che te la regge bene, riesci a vedere sia le partite che i film, quasi tutto quello che vuoi. E poi stavo dicendo a Claudio, io avevo prima un telefono Sony che aveva l'uscita HDMI, che ormai non fanno più, non ho capito perché. Ho provato a scaricargli qualche applicazione, ma il telefono è troppo adattato, non regge gli aggiornamenti, capito Cla? Sì, no, ma io c'ho quello, diciamo, dai, uno degli ultimi, capito? E quando poi sono andato in pensione praticamente, mi sono fatto un regalo e abbiamo preso lo smart TV da 50, ok, ed è quello di ultima generazione, Smart TV 4K, come si chiama, lo vedo da quello di fianco, figurati, fine, una cosa bellissima da vedere, perché si vede che è uno splendore. E c'ha tutto, io praticamente quando l'accendo schiaccio un pulsante nel telecomando e mi dà la videata come il computer, con tutte le icone praticamente, tutto, c'è YouTube, Google, tutto come il computer, capito? La pagina principale di tutto lo schermo, la videata grande, tutto. Poi per Giulio c'è l'icona Dazon, no? Io vado direttamente, c'è lì su Dazon, e mi dà anche a me, c'è Dazon 1, 2, 3, fino a 10, dove però me li dà in automatico, lui stesso mi dice che su Dazon 1 c'è la partita, me l'ha già segnalata, c'è la partita Milan domani, sabato, c'è la partita Milan, Milan-Napoli. Su Dazon 2 mi segnala che c'è un'altra partita internazionale, poi ci sono tutte le partite a livello europeo, poi c'è il basket. Io vedo su Dazon la Dinamo in diretta quando gioca, capito? Ma tutte le partite di pallacanestro, le nazionali di pallavolo, quando c'è nuoto, quando c'è ciclismo, tutto ti dà, tutto. Però chiaramente io non ho nessuna applicazione, io sono a pagamento, sono gratis per 3 mesi, dopodiché decido, ma ho già deciso di tenerlo, adesso vedo la partita come si vede domani, ma si tratta anche fra del televisore, perché questo è di ultima generazione, questo costava 1.100, io l'ho pagato 9,50 da Media Globe, capito? Un bellissimo televisore, molto bello, un Samsung di ultima generazione, capito? E lì c'ho tutto proprio, la vediata come il computer, perché c'è addirittura c'è dietro il pennino wifi, capito? Che rimane sempre illuminato e lampeggia in celeste, proprio il pennino, della linea del computer di casa, capito? C'ha, avrà anche 10-15 attacchi dietro, entrate, uscite, USB, di tutto va. Se vuole comprato da Media Globe? Media wow, ma diciamo, Media Wall. Ho detto, caspita, Media Globe anche televisori vende, hai visto? Sì, perché mi confondo sempre, come un'altra volta ti ho detto, va bene Media Globe, ti ho detto sì, ora di prendere l'aereo, non so se sono detto tu Gianni, bu. No, va Media Wall, qua a Sassari, a Sassari, ci aveva anche troni, però non era in offerta, capito? Comunque, anche questa Chromecast va bene per i video molto recenti, con qualità, dal 720p in poi, ma se guardi quei video, sai, vecchi di anni fa, 360p, li vedi sfumati come li vedi sfumati allo smartphone. Non credo che faccia nemmeno upscaling, come si dice, upscaling, cioè. Vabbè, è così. Oh Fra, ma tu Chromecast come mai poi hai desistito? No, mi è passata un po', prima mi stavo un po' informando e poi ogni tanto ne esce uno nuovo, siamo sempre solo in fermento. Poi per quanto riguarda i televisori, per adesso rimango un po' in stand-by finché non escono quelli di nuova generazione, poi vediamo come funzionano, quando cambierà il tutto, sicuramente poi lo cambierà qualcuno, dai, piano piano. Io ho il Galaxy A7 2018 come telefono, quindi di ultima generazione, sai quanto si vede bene. L'altro giorno stavo guardando un pezzo di partita di Sky a provare sul telefonino, è favoloso, però poi mi metto sempre il cavetto, appoggio il telefonino, metto il cavetto USB e me lo guardo grande, capito? No, anch'io sul cellulare vedo benissimo, perché il mio è 4K, diciamo, il telefonino fa anche il video in 4K, anche se un po' si sta macchiando il video, perché sono quegli schermi Super AMOLED che sono molto sensibili, e un po' si stanno rimanendo le icone che sono sempre in sovraimpressione, si sta un po' rovinando il display, ma ce l'ho già quasi 4 anni. Vabbè, ma questo c'ha fotocamera, tutta fotocamera avanti e dietro, se vedi la foto è da paura, se fotografo una mosca per terra si vedono anche le zampe, è favoloso come telefono, favoloso veramente. Il cavetto è suo, in dotazione ti fa vedere tutto. Però adesso ti ripeto, io ancora partita non li ho visto di Dazon, questa è la prima che vedo, capito? Perché erano troppo. E vediamo. Se non si interrompe, perché si vede come Sky, perché Sky si vede, vabbè, la televisione è grande, però si vede tutto benissimo, vedi il campo, poi quando lo metto in HD 4K è una cosa 4K, come si chiama? Mi sto inceppando con tutti i K a roccia. Già è 4K, ma è 55 pollici? 50. Noi abbiamo regalato il 55 a un collega da poco, abbiamo collegato lì per farglielo vedere, è uno spettacolo, abbiamo messo una chiavetta con i filmati già scaricati in 4K, ma era qualcosa di impressionante. Ah, è un cinema, io volevo attaccare a parete, però non l'ho fatto, ce l'ho sulla base del salone, ma è una cosa spettacolare veramente, si vede veramente molto molto bene. Infatti quando sono qua in stanza, che ho un 32 pollici HD, mi viene da ridire, però a volte mi sposto qua, ad esempio quando c'è la Coppa Italia me la guardo qua, perché la danno sul primo, se non c'è niente di interessante di là, se no me ne vado là a guardarla, ma c'è un abisso completamente. Sì, questo c'è la chiavetta, la chiavetta con l'antennino piccolino, si attacca dietro e lampeggia, quindi prende segnali da tutto. Sì, io lascio il telefonino anche in camera da letto, invece prende segnale e me lo fa vedere direttamente sul TV. Non, se voglio non attacco neanche il cavetto, io lo metto così, però se voglio io lascio il telefonino fermo sul tavolino, e digito il codice d'accesso della password per prendere segnale dal sistema wifi e mi fa vedere direttamente la partita col sistema wifi, è una cosa pazzesca. Scusate, dai, ciao Cla, io vi devo lasciare che è venuto mio fratello, ci sentiamo magari domani. Ciao Giulio, Marco, Claudio e Franco, e arrivati a domani, dai, ciao, riprendi Cla. Ciao, ma la macchina da portato? No, non è lui, è l'altro, magari, ma forse è Angelo. Ciao Fra, ci sentiamo a domani, dai, buona giornata, avanti Marco. Ciao Franco, buona serata, buon proseguimento, ci sentiamo nei prossimi. Ti rilancio, Giulio, c'è ancora? Sì, ci sono, ciao Franco, a domani, dai, grazie per la chiacchierata. Sì, ti lancio a Franco di Stazza, avanti Franco per salutare l'amico di Sorso. Capo, ciao Franco, un abbraccio alle prossimine, avanti Claudio. Capo, ciao a tutti. Eia, va bene. No, vabbè, questo è un sistema, adesso ti ripeto, io controllo. Se va bene, lo tengo, se no non aspetto neanche ai 3 mesi, glielo dico, no, non mi interessa il servizio perché non si vede bene, però penso che si veda bene, con questo tipo di TV penso che si veda molto bene, che c'è un segnale allucinante. Va bene, ok, io ho altri 5 minuti lo stesso, perché sono già meno un quarto, rotto meno un quarto, che anch'io volevo sistemare il cane, anzi ne approfitto, vi saluto e ci sentiamo domani, grazie a tutti della compagnia, Franco salutami ad Anna, ciao Giulio, ciao Marco e chiunque fosse in ascolto sul canale 10, dai, io mi preparo così mi sistemo il cane, vai Marco, riprendi tu e fai girare. Ok, K, va bene, mi sono distratto, non sto capendo niente, stai chiudendo per andare col cane? Sì, vado a portare a Filippo, se ci siete ritorno dopo, se no vi saluto, dai, ok? D'accordo, non so manco che ore sono, va bene, a caso ritieniti salutato, dai, che devo buttare un po' di differenziata. Faccio più plastica io in bottiglie che tutto il palazzo, lo sai, perché questa storia che sto bevendo un bel di acqua. Beh, saluto Claudio, un abbraccio anche a te e famiglia, già lo sai. Riprendi Giulio. Ok, ciao Claudio, alle prossime, dai, ci sentiamo. Comunque in questo momento sto guardando Rai Monte Carlo 1, Henry, come si chiama, l'allenatore francese, sto guardando anche i servizi e i filmati delle varie partite della Francia. Bravo, ciao di nuovo Cla, alle prossime. A domani eventualmente. Vabbè, comunque una buona applicazione questa, dai, non ci sono problemi. Bravo, riprendete pure, chi c'è rimasto? Gianni se n'era già andato da molto, Franco se n'è andato, Franco di Sorso. Riprendi tu Franco di Sasso, ne vai. Tra un po' anche qui l'ora dei pavesini, come si dice giù. Lo so, anch'io, bravo. alcuni minuti e dovrò chiudere, perché qua si c'era verso le 8, grosso modo sono già le 8 meno 11 minuti, per cui siamo vicinissimi anche. Da un momento all'altro potrei ricevere la chiamata dal piano basso qua di casa. Ci sentiamo eventualmente la prossima volta. Dopodiché, sperando di risentirci ancora, perché adesso eravamo un sacco di tempo senza risentirci. Fra. Attacca di nuovo, la sera già ci siamo, non molto presto, comunque diciamo che almeno dopo le 6 ci siamo di sicuro. Avanti Marco. Eccomi. Va bene. Ok, quindi vari sistemi, eccetera. Questo perché non abbiamo la Smart TV, però Chromecast lo uso una volta ogni tanto me, perché non è tutti i giorni a guardare Ofra. Ogni tanto, anche perché io per attaccare il wifi, il modem wifi, devo disabilitare quello del telefono. Perché qua c'è linea DSL e due linee telefoniche. Devo togliere il modem Pirelli a mettere quello wifi per attivare il wifi che vada tramite tra lo smartphone e Chromecast. Potrei usare anche un sistema diverso, ma comincia a complicarsi allora la cosa. Puoi attivare l'hotspot di uno smartphone, quindi Chromecast prende i dati mobili dalle, poi ti serve per un altro cellulare per comandarlo, da usare come telecomando. Invece con wifi, vabbè, usa quelli del wifi della DSL, lì non è a giga, lì è sconfinato. Scusate, stavo cercando il bollo della macchina. Ne ho fatto due l'altro giorno e uno non me lo prendeva, praticamente c'era la scadenza sbagliata. Io ho pagato per 5 anni senza nessun problema. Adesso, da quando sono passati i bolli dall'ACI all'ufficio delle entrate, lì è un casino. Giulio, hai visto cosa ti ho mandato? Sì, l'ho visto, lo scudetto della Juve, sì, l'ho visto alla grande. Sì, stavo, non so se hai ascoltato poc'anzi, stavo guardando i commenti, naturalmente sono in francese, che io non ho capito l'accidente, ma c'era Terry, c'era il grande giocatore che adesso è allenatore, è diventato del Monaco. Va bene, dai, su Radio Monte Carlo 1. Vabbè, dai, ci sentiamo. Sto aspettando la chiamata per la cena. Ma non stai riuscendo a prendere il cane? Ma mi è arrivato un... Cosa scudetto? Non vedi che il berretto ufficiale della Juventus? Che me l'ha mandato un amico da Torino. Hai visto? Te l'ho fatto anche fronte e retro. Il berretto ufficiale della Juventus. Dietro c'è Juventus con Juventus Club www.com. Quello è il berretto ufficiale della Juventus, originale. Ok, sì. Adesso ho guardato bene. No, io avevo fatto caso solo allo scudetto, perché me ne ha mandato due, nel primo c'era solamente lo scudetto, l'altro non si capiva che era un berretto. Sì, adesso lo vedo che è un berretto, sì, è vero. Sì, all'interno c'è le cose proprio lo stemma, rotto ufficiale proprio della Juventus. Anzi, mia mamma lo pongo, e andiamo a portare un cane, uscì c'è gatto qualche intervista per volte maniana. Io ho una penna a Biro della Juventus, che c'è scritto sull'aggancio, c'è scritto in grande, in verticale, Juventus. Una volta ce l'avevo nella tasca del giubbotto, ce l'avevo, e l'ho visto, me l'ha visto uno al bar, me l'ha visto e lo voleva. Ah, tennando, ti occupo più la benna della Juve, lo sarei mai capito. No, però io qua non la trovo. Vai a Torino, te la comparezzi, me l'aveva portata mia figlia da Torino, pensa un po'. Sì, anche questa è arrivata lì. Sto cercando di farmi mandare la tutta, ma sarà molto difficile. Va bene ragazzi, vado a portare il cane, se ci siete a dopo, se no ritenetevi tutti salutati. Ciao! Ok, ciao Cla, ciao, alle prossime. Avanti Franco. Ehi a capa, ciao Cla, buona passeggiata. Avanti Marco lì. Buona passeggiata. C'è un freddo quando sono andato poco dopo il tramonto, fare un po' di spesa, però già pungente, alla gola soprattutto mi prende. E vabbè, chissà che a febbraio, eh? Solito il picco del freddo non è a febbraio, o no, gennaio-febbraio. Speriamo che l'abbia anticipato quest'anno, per adesso basta, eh. Ah, però io preferisco il freddo al caldo, il caldo lo soffro, è soffocante, ti togli tutto, sei mutante, la pelle non te la puoi togliere, preferisco il freddo al caldo comunque. Per quanto mi piace il mare, ma caspita, almeno c'è freddo, ti copri, ma lì quando c'è quell'afa, mamma mia, anche a Milano c'era afa mia a luglio, c'era un'afa a 30 gradi fissi, allucinante. No, io preferisco l'estate, il caldo, da meno problemi, meno malattie, bronchite, polmonite, queste cose qua, mamma mia. Non se ne esce più d'inverno, così è giù. Io lo credo, l'estate ci vuole, sempre l'estate, però non siamo mai contenti, questo bisogna riconoscere, perché anche in estate ci lamentiamo perché c'è troppo caldo. Poi se sono giornate come quelle di ieri, l'estate addirittura ci manca proprio, perché alla grande, oggi tanto quanto non era così brutta la giornata, ma arriva di nuovo il maltempo e a quanto sembra addirittura anche da domani, domenica e anche lunedì, per cui speriamo bene. Va bene, dai, riprendi tu Marco. Comunque bene o male spero di trovarlo un sito, non un'applicazione, un sito che dia Netflix in streaming. Poi sai, di solito i siti questi pirata che diffondono contenuti a pagamento, ne sparisce uno, ne riaprono tre, quindi ogni tanto bisogna cambiare sito, capito? Ma di solito sono anche siti esteri, cioè se la nazione che ospita il sito può essere pure in Siria, non gliela fottino del copyright. Al limite puoi fare un blocco per l'Italia, sì, dall'Italia puoi bloccare un po' la visione di quel sito, ma è aggirabile, è tutto aggirabile. Questo stranamente sta durando un po', io non ci speravo, ora. Ma TV Tap, vuoi dire? Tappa. Io l'ho messo, l'ho usato un paio di volte, così. Poi sai, a me il calcio non piace, lì c'è molta roba sportiva a chi interessa lo sport, molta, quella sì. Però proprio Netflix, guarda, solo per Netflix l'avrei piazzata quell'applicazione, vabbè, è andata male. Oh, sopravvivo lo stesso, ma avrei preferito che ci fosse. Probabile che, non so, lo facciamo rientrare in piattaforma, non è detto che non lo mettano su, qualcosa la troverò, dai. Certo, poi magari non è come un prodotto a pagamento, perché la qualità non è mai HD o full HD come Netflix, se non ho 4K addirittura. Se ti devi accontentarmi, è come la differenza tra guardare un DVD e una videocassetta. Capito la qualità? Già il 4K è 4 volte superiore al full HD, figurati l'8K cosa deve essere. Vanno tutti a raddoppiare, poi faranno il 16K. No, noi i televisori fino a che non li distruggiamo non li cambiamo, possiamo mettere un decoder esterno quando cambieranno quel codec di trasmissione, no, le emittenti TV, però finché non si sfascia siamo molto contrari a cambiare la roba, come la lavatrice, finché non si sfascia del tutto non la cambiamo. Adesso ho un LG che si è fulminato il pannello a LED che c'è dietro, quello che retroillumina, ce l'è presente? Sì, e noi siamo rimasti agli LCD, mamma usa un Samsung forse 42, non 40 o 42, LCD, e io lo stesso, un LCD HD Ready ancora, era il primo che avevamo preso di tutti questi 16 noni, no, questi televisori lì a largo schermo. Ah, poi stanno studiando televisori e 21 noni che sono stretti in altezza e larghissimi, che però alla fine, ma chi se lo guarda 21 noni in televisore? Ti viene il torcicollo. Adesso non so come fare, l'altro giorno abbiamo smontato mio figlio e un LED fulminato, compromette tutto il pannello, cioè non si accende più, fa dei lampeggi e basta. Le ho controllate uno a uno, solo un LED centrale. centrale che da sostituire, però sono quelli che sono saldati, non dico a freddo ma quasi, quelli quadrati, quelli da, penso che sia da 3 watt. Eia. Pensa che il plasma erano spariti, cioè come era prima gli LCD, no, gli schermi, poi plasma, poi LED oppure OLED no, che non ha illuminatore dietro, non è cristalli liquidi, è proprio il LED che dai colori, sono piatti quelli, sono belli perché sono piatti, i nostri sono abbastanza profondi, relativamente profondi, certo non come il tubo catodico, oh, ci mancherebbe, per carità, quei barrasoni. C'è uno Alghero, come si dice, l'hai appena detto, quelli a gas, non mi viene più il nome, però ti dico che si vede bene, avanti giù. Ok, sì, infatti stavo aspettando il microfono per salutarvi, dai. No, non c'è quello che hai detto tu, o Marco, Iris, no, non l'ho trovato, stavo controllando ancora, ma non l'ho trovato. C'è tutto, tutti gli altri ci sono, addirittura c'è Real Time, addirittura, penso un po', Antenna 2000, c'è un po' di cose, di tutto, però quella Iris non l'ho visto, assolutamente, vabbè, l'ho rimesso dall'inizio. Ma poi dai, ragazzi, vi saluto, grazie per la chiacchierata, ci sentiamo alle prossime, dai. Ciao Franco, ciao Marco, grazie a tutti e due, alle prossime. Ascolto il vostro finalino e dopo chiudo per la cena. Avanti Franco. Fai gappa, dai, mi ha fatto piacere sentirti. Un abbraccio a te e quella famiglia, dai. Alla prossima, avanti Marco per i saluti. Eia, ciao Giulio, buona serata, buon tutto. Capace che i canali che mancano ogni tanto li aggiungano, non so come funzioni, cioè il sito che trasmette questi contenuti non so con quali criteri funzioni, può darsi che aggiungano canali in futuro, vabbè, è un po' una cosa incognita, io roba streaming non ne guardavo quasi mai, per me è una novità, diciamo. Buonasera, buon tutto, ci sentiamo appena possibile anche domani. Bene, frate, mi puoi dire l'orario? Che qua ho spento tutto, casa batteria down. Sì, capa, 20.02. Ah, ok. Vabbè, adesso mi butto qualcosa. Un po' di cartone, un po' di plastica, un po' di umido. E poi mi posso collassare a letto. Vediamo cosa c'è in TV, se non mi guardo qualche film mio. Pensa che io non ho mai nemmeno voluto comprare lettori Blu-ray per i film, c'ho ancora il lettore DVD oppure chiavette USB, però va che trovi in internet. Anch'io ho un hard disk da un tera, ho un amico che sta sempre scaricando film e ogni tanto gli faccio fare un giro, lui toglie tutto, svuota, mi mette film nuovi, serie TV, un po' di tutto. Intanto lo rinnova e vado avanti così. Quando c'è qualcosa di brutto in televisione, non c'è nulla di buono, prendo, attacco e mi scelgo un film e me lo guardo con la famiglia, dai. Ehi, ma cosa usi, torrent? No, io gli do solo l'hard disk, poi fa tutto lui, non so dove scarichi lui, Ah, è un hard disk di quelli collegati in rete, che va online, no? Non so come sia quello. Ti dirò, sono rimasto molto indietro come tecnologia, perché se stai appresso alle innovazioni devi stare in 3 mesi a cambiare il televisore, a cambiare smartphone, esce il modello che sostituisce quello lì, mamma, proprio il smartphone è uno scandalo, ci sono 10.000, ogni marca ha 10.000 modelli medio gamma, già che la fascia che va per la maggiore. Sì, no, male. Lo collego alla televisione. C'era l'HDMI, qua. Ecco. E dentro ci scarichi tutti i film che vuoi. Ripeto, questo mio collega scarica film notte e giorno. Me li butta dentro la disk e poi io li vedo, come si dice, in ordine alfabetico, come vuoi li puoi ordinare, dai. Ehi, ma se tu vuoi scegliere un film da scaricare, cioè vuoi un film in particolare, come fai a scegliere il titolo? Cioè, da scaricare sull'hard disk prima. Scusa un attimo, c'è una telefonata. Ehi, Antoneddu, anzi da oggi ti chiamo il bannato, vieni avanti. Imbannato. Allora, sono andato in cavallo, gli dice, ma ho spegnere la stufa perché gli stavo facendo male. Poi ho dato che c'ero, sono uscito fuori, mi sono fatto un paio di tardellini, me li ho scaldati, me li ho bagnati, avevo fame. Mezzini, buoni, buoni, se non piacciono abbastanza, con prosciutto e formaggio, tonno e pomodori, e la voglia. Eccoci qua, siamo fatte le 8, grazie a Dio che sono riuscito a rientrare dal baracchino oggi, a stare presso il computer, uffa, certe volte viene voglia di sbattere tutto al muro e fregarsene. Perché la tecnologia poi non è, ci sono incompatibilità, quella non funziona con quel sistema operativo, o i driver non sono buoni, o basta. Sì, io ce l'ho buttato qua il computer, figurati, no, già c'è un giorno che non lo uso, figurati tu, quindi ce l'ho come giocato sopra il mobile, ce l'ho. Perché altro uso il telefono per parlare con Simone e basta. Capito? Se c'è qualcosa, oggi sono tutto il giorno appeso a Giampiero, a mia sorella, a miei nipoti, sono sceso giù, dato da mangiare, poi ho aspettato Giovanna, poi sono uscito a fare la spesa, poi sono entrato. E facevamo la gamba stamattina, non riuscivo a camminare, siccome ieri ho preso acqua, ma acqua però, tutti i pantaloni di sotto, i pantaloni, il pigiama di sotto tutto bagnato, i pantaloni e il pigiama, i jeans, quel vento che c'era, è come se fosse uscito in moto, e mi ci mancava se vuoi farmi la doccia. Ieri... qua sono bastati pochi metri, come sono arrivato dello spingendo per entrare, pioggia, ma ha sfasciato anche l'ombrellino, il vento, è già in pochi metri sbagnato, esco, se non ho bagnato per mettere le busta dentro, poi arrivo sotto casa, di nuovo ancora piovendo quando ho dovuto scaricare le buste, poi... certo non giù poi non fradicio, però mi ha bagnato abbastanza e poi il vento, questi ombrellini piccoli mini te li sfascia subito, sono troppo delicati. Non di gambe, c'erano uno di quelli infatti, di quelli neri, di quelli mini che sembrano tascabili, appena per andare in vento si piegavano la parte opposta, quindi figurati. Poi qui già lo sai, devi stare molto attento quando cammini per andare dallo spi, anche perché ci sono così abili, se c'è qualche albero magari che mezzo malandato te ne scende in testa e ci fanno un nuovo, o magari qualche pezzo di insegna, come è successo ieri la cosa da vicino a Cicci, sono venuti i pompieri con l'autoscala, non sono usciti per niente, no, dall'acqua che stavo facendo, era il vento, hanno aspettato che calmava un po', poi hanno sistemato tutto. Io adesso, a parte la pioggia, no, io sono abbastanza leggero, io ho una camicia estiva, non ho né maglia di sotto né sotto pantaloni, ho una camicia estiva e la giacca metto, piumino, croche, no, perché quando arrivi nei negozi, che ne so, tipo già, poi dentro c'è un caldo boia, quindi se c'hai la maglia sotto la camicia, non è che ti puoi togliere la camicia, rimanere a torso nudo e rimetterti la camicia, no, c'è togliere la maglia di sotto, no, che fare, allora preferisco avere un giubbotto più grosso, però stare molto leggero sotto. Però allo stesso tempo ogni tanto mi frega un po' il freddo al collo, che se no ti devi portare pure la sciarpa, metti e leva, prima o poi te la perdi la sciarpa. Capito? Come una volta ho perso un bel paio di guanti in pelle nuovi, in un bar, me li sono dimenticati, o spariti. Sono ritornato il giorno dopo. Avete trovato dei guanti? O se li saranno tenuti? Sì, così, ma se il cellulare vuole fare oggetti sopra la distruttura di benzina, già c'è quello male. Ehi, ehi. Franco al telefono, vediamo se è rientrato Franco. Capa, dai, devo chiudere. Vi saluto, saluto anche Antonello, ben sentito. Un abbraccio, una buonanotte e alle prossime. Riprendi Marco. Capa Franco, dai, sentiamo. Sentiamo le prossime, buon tutto, buonasera. Io quando posso accendo adesso, andiamo. Dico sempre così, poi sparisco per giorni, da. Bene, vai Antonello per i saluti. Sì, ciao Fra, ci sentiamo, stai bene, bucoletti, buon tutto, ti saluto di famiglia, la parte mia. Sì, ciao, perché c'è rimasto? Siamo solo noi due o c'è altra gente? No, tutti a mangiare sono andati, tutti a cena. L'ora della cena è questa, voi sai, TV inizia la TV, film, quello che c'è. Sto guardando anche poca TV negli ultimissimi giorni, perché non a giugliare, invece mamma, ieri stavo guardando quei ceffi, quei billoi dell'isola dei famosi, che anche lì è tutto bisticci, coso, scenate, quella la chiamo TV lobotomia o TV spazzatura, lo stesso quello Amici di... No, come si chiama, Uomini e Donne, lì, quella che fa quella bionda che fa la buffona lì, ma non ti nanti, ma se ne era grande, boh. Proprio TV lobotomia, hanno ragione quelli che lo scrivevano a spray sui muri. Io meglio guarda se ne ho commentati o qualcosa di più utile, di più istruttivo. Ah, quello sì. Sì, l'unica cosa bella è coso, Freedom, capito? C'è qualcosa di buono almeno da guardare, poi il resto della roba non serve a nulla, mi sembra che sia oggi Frido. Frido? Cos'è Frido? Frido, no, mi ricordo Voyager, pare uguale, solo che la rete 4. Ah, no, non lo conoscevo. Ho perso un po' il ritmo di guardare programmi TV e mi devo mettere in carreggiata. Poi a quei programmi anche dove invitano Scarbi, lui ce lo invitano proprio perché tanto si mette a parolacce contro tutti, capra, parolacce. Proprio TV spazzatura quella, lui viene invitato apposta per quello, per azzuffarsi in televisione. Ma lasciamo perdere. E quello è sì. Capa, glielo credo, è fissato. Quando vede donne gli altri riescono gli occhi fuori, cazzo, comincia a abbracciarle, a toccarle. Se quello che trova adesso sa che prende Sgarbi, lo vediamo con gli occhi neri, cazzo. Mi ha pigliato un po' che gli luce, ne ha più lui, cazzo, che è un cestino di umacche. Sgarbi fa scena in televisione, si fa forte perché è invitato, per fare queste sparate che fa lui. Ma poi nella vita normale se si gira così a uno molto ci mette a alzarlo a calcelli e sedere a Sgarbi. Sì, critico ad arte, ma come ce ne sono tanti, non credere che sia un pozzo di scienza. Ci sono critici d'arte molto più educati, molto più signorili di quel cafonaccio, perché poi anche con le contro le donne, già lo sai come parla adesso, troia, puttana, e anche di peggio nemici. Figurati. Va bene. Questo attivo è diventato un capitalismo da far schifo proprio. Prima il calcio era tutto libero, no? Prima è questo digitale terrestre. Ma tutti gli sport li vedi liberi, adesso è tutto. Devi fare Sky, devi fare coso, Mediaset, prima ti rifai 10.000 abbonamenti se vuoi vedere tutto. A chi paga di più, capito? si fa 10 abbonamenti se non di più per vedere tutto, ma anzi innanzi hanno schifo anche. Hanno aspettato al varco il digitale terrestre per fare contenuti protetti, ecco a cosa è servito il digitale terrestre. Poi me ne frega se c'hai 200 canali e poi ne vedi più della metà che sono televendite, tutto televendite, teleporcherie, adesso vendono anche vibratori per le signore in televisione. Come diceva in quel film di Vardone il professore, questa è porno anarchia. Quello che è successo che dopo gli 11, quella roba lì, in America le vendono parecchie di quella roba lì, capito? Di tutto si comprano, cazzo. Bambole gonfiabili, hanno proprio visto bambole gonfiabili, ne hanno trovato una di Gian Umberto, e hanno fatto anche la foto su Facebook. C'è una bambola gonfiabile e un pisello, addirittura, di Blachica, che sa che cazzo è, se l'ha preso, penso che se l'ha preso. Cioè era una bambola gonfiabile col pisello. Sì, poi c'era anche il pisello da parte, però c'era anche la bambola gonfiabile, capito? Tutti completo. Ma io penso più che sia stata una goliardata, proprio per vedere se finiva sul giornale la foto. Non penso che uno che butti una bambola gonfiabile la lascia lì mezza gonfia per farla vedere poggiata così, no? Manco per farsi vedere buttandola. Vabbè, c'è una goliardata, funzionata, è finita sul giornale l'articolo. Ma... scommetto che se l'avessi visto tutta la sera ci portata a casa. Io credo molto, mi posso portare a casa la televisione, se magari è vero belli, di 15 CD, per dire qualche radio, ma di quella porcheria non da un computer mi sono capitati, la verità, CD ne ho 100, ne ho trovato 100 un giorno io, sono ritratti tutti e 100, ma uno più bello dell'altro era, tutti con musica MP3 scaricata, ma bella, e ce l'ho a casa, ce l'ho, quindi figurati. Ancora con questa lavatrice. Fate boobies, eccomi qua. Vabbè, la gente buttava di roba nuova, poi non te ne dico lì zona Porto Cervo, trovavi un bagno completo, ancora nel cellophane, proprio l'abbandonato, buttato perché non gli piaceva il colore, che ne sai, la moglie ha scelto una cosa diversa. Tutto, rubinetteria, lavabo, cesso, bidet, tutto il bagno completo. E lì li buttano anche i soldi, capite, in quella zona lì. E c'era uno che come trovava roba, no, l'ho buttata, se la pigliava. Ok. Anche a Piazza Lessegno ogni tanto vedevi il Curmain lì il martedì a pigliarsi roba, a prendere qualsiasi cosa, basta che fosse gratis. Una volta c'era una yogurtiera nuova, una yogurtiera di quelle marche note, no, nuova, col cellophane, proprio sigillata con tanto di scatola. Io l'ho guardata e me ne sono andato. Pensa che noi ce l'abbiamo buttata la yogurtiera, perché alla fine avevamo mangiato talmente tanto yogurt che ce n'era uscito anche dalle orecchie. Però lì c'è andava gente a fare la spesa a Piazza Lessegni. E non era gente che aveva bisogno, ma era anche gente così, capito? Ma contenti loro. La Napoletana tutti portano la roba, capisci? Quando la vedono lì di Brampada, vanno alla Napoletana, 10 euro, 20 euro, quelli che sono. Hai capito? Se la pia quello la Napoletana per conto mio. Se io trovo qualcosa di buono, io prendo, me la porto a casa e la uso, non me ne frega nulla. Capito? Io con te la chiamo la serve, già ne ho roba lì, quindi tu non si voglia. L'unica cosa che ho trovato è la tastiera, quella sì che funziona. E la sto anche usando, nuova. Me la porto a casa e mi faccio i cabezzini. Mi faccio. Crescono di lusso. Ma volevo la leggere vanno, dicendo a regali, no, aiuto, l'ho trovata io, immaginati, sai quante cosa si trova, a volte trovi anche buste con pantaloni nuovi, nuovi, nuovi, lì. Con mai usati, con l'etichetta e tutto lampade, perché qui di fronte a casa ci sono due appartamenti che affittano, capito, a studentesse, quindi straniere, no? Ogni volta che poi quelle vanno via, siamo tutto quanto lento, capito, la figlia ci diciamo tutto nel cassone, anche televisori a volte, televisori, videoregistratori, DVD ne ho tre, ho trovato tre io, nuovi, e la viola. Anche noi abbiamo buttato roba con etichetta, ma più che altro perché era tipo pantaloni o camicie di qualche anno fa, mai usate, tenute proprio nella confezione originale, perché io sono ingrassato e non mi stavano più, cioè tipo taglia 42, no 44, 46, adesso 50 credo, 48, 50. E le mettevamo nel contenitore per abiti, no, quello che poi gli danno a chi ha bisogno. Roba nuova, vai, non roba con le macchie gialle dietro, roba nuova, con l'etichetta. E purtroppo anche qua si è sperperato molto. Sì, io lo so. Ciao, tutta la sera che stavo salendo con P, ambulanze, no? Che boh. Che sai, se grazie, beh. Su via Calo Felice. Se ne so che c'è rete grossa, evidentemente. O c'è la strada ghiacciata. Qualcuno deve ci. E se tu fui. Certo che adesso salite. Ciao, non ho inteso l'elicottero. Quelli vengono da te adesso, mi ti fanno il TSO. Il TSO non mi fanno. Ma io c'era uno, perché non c'era la barella, così la presa si è svegliata in terra, gli ha fatto soccorso. Figura che li vediamo me. Ho visto. Quello purtroppo seduto aveva dolori, l'unica posizione buona, si è messo in terra sul fianco destro che gli dava un po' di sollievo, però per dire, proprio roba da terzo mondo. È anche vero che negli ospedali sarebbe vietato fotografare, caserme, ospedali, sì, quello l'ho voluto fare come denuncia appunto, no? Per far vedere le condizioni in cui è la sanità, però. Spero che almeno gli abbia chiesto il permesso al signore per fare la foto, anche se di spalle. Sì, si è detto che aveva fatto di nascosto, cosa ne so. Aspetta che il fatto scorso meglio non andarci mai, capito? Aveva fatto una gargata, mi ha fatto questa cosa unica, essere unica, non riesco a mancare a adesso il policlinico se ne va a fare un culo in pratica, perché il giudice gli ha fatto il fallimento, quindi siamo morti bene questa sorrisa. Adesso di fare cosa lì all'ospedale, di buttare giù la palazzina, quella vecchia, ma stava non si è chiamata, come si chiama, la policlinico, usare quello, capito? E forse avevo risparmiato un bel po' di soldi, tanto i medici c'erano, cosa gli costava fare così. Pure il policlinico adesso perdiamo, boh. Cosa vuoi che ti dica? Poi sul giornale ha visto che ci sono state delle due o tre rapine, non ho capito bene, nell'arco di poche ore o pochi giorni, via l'Italia dintorni, no? A parte quello si lamentano che già c'è meno gente, perché prima la gente parcheggiava anche lì, via l'Italia, magari a pagamento, ma per adesso niente, la pista ciclabile hanno fatto, che te vegga ne geggo. E infatti i commercianti hanno detto, sta succedendo quello che noi Beh, non ci voleva certo un genio per capirlo. Crisi, serende abbassate, passando anche meno gente, c'è più delinquenza, perché c'è una strada molto affollata, la rapinatore è più pericolosa, perché se trovi quello svelto e con le palle te lo blocca, te lo atterra il rapinatore. Poi c'è meno gente passa, come il centro storico, come a finire, succede di tutto lì al centro storico. Dopo una certa ora c'è il coprifuoco, alla chiusura alle 8 già c'è il fuggi generale. E vabbè, tutto per far spassare un pirla con la bicicletta, un pirla ogni tanto, manco fossimo in Cina, che se, almeno non sono, erano tutti in bici una volta, erano, adesso sono tutti con il motorino e tutti con la macchina, non è più la Cina di una volta, no? Adesso la Cina sta diventando un paese capitalista peggio degli altri, altro che comunismo. Già lo so, io aspetta, arrivo subito, 5 minuti. Ehi Antonio, 5 contatti, poi devo chiudere primo perché... Vabbè, fai. Ehi, 5 minuti, aspetta. Ehi, io vado in bagno, mi sto facendo addosso. Ehi, altrettanto. Auli, uli. Ho fatto lo scoreggio, poi ho visto che stava per saltare il tappo, sono andato veloce. No, io bevendo acqua, anzi oggi acqua ne ho bevuta meno, sono tutto il giorno con la stessa bottiglia e ce n'è ancora quattro dita. Invece quando sono nervoso, che non so dove sbattere la testa, non so cosa fare, allora sempre, ogni pochi minuti, un sorso d'acqua e bevo un bel, e devo stare avanti e indietro col gabinetto. Proprio per, naturalmente sempre dopo l'operazione, no? Prima il consumo d'acqua era normale, una bottiglia al giorno, adesso sono 3 bottiglie al giorno, nell'arco delle 24 ore, no? Un giorno non solo, già capito, dai? Certo che torno presto, certo. No, io sto pisciando la birra invece, la Coca-Cola. Sono l'acqua proprio, questa qui niente, non riesco a pisciare come pensi tu, capito? Perché la birra fa pisciare, il discorso è quello lì. Adesso per il muscolo è partito per il corso, perché bevo molta acqua, io bevo, capito, di giorno. E quindi per facendo un po' di fluidi, così mi piscio addosso quando sto camminando. Mettiti il pannolone, te lo fai nel pannolone e poi ti cambi con la turni, come gli astronauti. No, noi gli astronauti, la verità, non lo so come che sistema hanno, credo che abbiano una specie di cosino che si collega, lì ci avrà una piccola apertura, no? Naturalmente parlo quando sono dentro la ISS, no, dentro l'astronave, chiamiamola, dentro la stazione spaziale. Certo, quando sei con la tuta nello spazio, al di fuori della stazione, se ti viene da fare, c'è un anno il pannolone, non lo so. Sì, c'è stato magari c'è il pannolone, comunque l'urina che fanno loro, la usano per bere l'acqua, capito? Hanno un impianto che è allucinante, capito? Si fa tutta la merda, tipo ti mangi in una sola l'altra, quindi tutto riciclano, tutto quanto. Che schifo! Sì, l'urina, sì, sapevo che si può filtrare, non so se evaporazione, non lo so. La cacca non so come la possono riciclare, cosa fanno? La fanno essiccare, fanno i biscottini, li mettono al forno, pucci cacca, no, loro hanno razioni da astronauti, tipo roba in tubetti, roba in panetti cremosi un po', no, roba che certo non ti puoi fare, non puoi buttare la pasta, mettere il sugo, il parmigiano. Mamma mia, e poi la FIFA, se ti rendi di dove sei, ti rendi conto di dove sei, nello spazio, ti passa un forellino, implode, no, non implode, esplode l'astronave per decompressione, non l'astronave. chiave, la stazione spaziale si chiama. Lo so, c'è il coso della ISS, l'app, che lo sai, per fare foto. In pratica deve aspettare l'ora giusta che passa dove sei tu e puoi fare le fotografie che vuoi direttamente in diretta. No, no, credevo qualcosa di meglio, tipo che Samantha Cristoforetti ti mandava le foto sue nude dalla ISS. Ti immagini? Vabbè, lì non c'è più adesso, lì su è a terra, mi pare, lì, da tanto. Ti immagini? Ti mandano le foto erotiche da con lo sfondo del pianeta Terra. Sì, io magari ci abbiamo fatto le foto lì, non è che si... capito? Già avevano combinato male la roba lì, in cui strani, capito? Dovrebbero vedere se si riesce a concepire nello spazio, no? Vabbè, che gli spermatozoi se ne fregano della gravità, loro risalgono anche la corrente, come i salmoni, sanno dove andare, capito? Sanno dove l'uovo è una cosa innata, la natura è incredibile, guarda. Vabbè, c'è roba che potrei fare io. In una scatola di sardine in mezzo a quanti chilometri è? 400 chilometri dalla Terra, non mi ricordo l'altezza della ISS. Comunque tanti anni fa, quando parlavo con le scuole, la ISS, no? Quando facevano questi collegamenti con radioamatori che andavano in scuole, che piazzavano antenne e tutto, no? Io andavo a Piazzale Segni e registravo. Tutti gli amanti del genere andavano, bastava uno spazio un po' aperto, vagamente aperto, uno scanner, un'antenna magari buona, anche se lo ricevi col portatile, però sai, con l'antenna migliore ho ricevuto molto meglio. E li mettono su YouTube il video, capito? All'epoca c'era, sai chi, quando registravo io, come si chiama quel tipo? Paolo Nespoli. Ah, è già vero, già vero. Comunque, con Bonfong riesce a ricevere, già lo sai, ci vuole lanciato un aggeggio e gli ascolti, se vai in un sito di un rilevatore, c'è la frequenza giusta di ingresso e di uscita di YouTube. Poi può darsi che esistano applicazioni, però a me piaceva l'onda radio in diretta, cioè come arrivava già a Nord Africa, cominciavi già a sentire segnale, perché è un mix le mie, va a una velocità allucinante. In pochi minuti dal Nord Africa, anche insomma, arrivava già in Siberia, cioè proprio pochi minuti era la finestra di ricezione. E io usavo lo scanner, l'Uniden, una volta ho usato lo Yaesu, il VR500, una volta ho usato l'Uniden e ho usato antenne diverse, una volta ho usato una... cosa ho usato io? Una Proxel Pro X1, no? Che in VHF non so come risuoni, non lo so se siano mezz'onda, 6 ottavi d'onda, non lo so, perché c'è una configurazione strana, no? Un'altra volta ho usato, all'epoca cosa avevo, porca miseria, mi pare che ho usato un'antenna un quarto d'onda, ma perdeva già molto segnale rispetto all'altra. E poi beccavo i passaggi quando passava proprio sulla verticale, quando sapevo che passava sopra o in prossimità della Sardegna, no? Che vedi il segnale sale, raggiunge il picco e poi piano piano diminuisce fino a sparire all'orizzonte. È interessante come esperienza, altro che applicazioni o via. Ah beh, quello sì, ma perché ce ne sono tante, ce ne sono viste, ci sono anche quelle dei portatili, ho piatto, ce n'è di tutti i tipi, ce n'è, capito? Le applicazioni sono già dentro, c'è anche questo ricevitore, anzi ricevitore sul ricevitore addirittura c'è. Ho visto, solo che è un casino a capirlo perché è tutto scritto in inglese, bisognerebbe capirlo un po' come funziona, c'è tutto di là, capito? Come se c'è un apparecchio vero e proprio, decametrico. Naturalmente io per ovvi motivi usavo lo scanner, no, ricevitore, portatile. utile attaccato all'antenna veicolare per ricevere. Certo, se usi un Bao Bao è più sensibile, ma cosa ne importa, un Bao Bao fuori, come fa qualcuno che lo mette sul tavolino del bar, che prima o poi l'arrestano. La carta dei capelli mi arrestano, già l'avevo visto. Me lo porto ogni tanto appresso. L'altra volta mi sono portato l'LPD piccolino, quello tuo, di Riuda, ci ha messo le batterie e gli altri parlavano a casa, io al mare. Io so che Max, questa PMR ha rotto le scatole, troppo corta l'onda. Per esempio io l'altro giorno abbiamo provato gli omologati, proprio i veri PMR omologati. Antenna rigorosamente fissa, praticamente ero a 50 metri ero nella via più su, no? Quindi ci sono i palazzi di mezzo, e sentivo, entro nel bar, come far con la sorella del bar all'interno, morto, cioè 500 mW, pure fasulli, RP, reali di RF sono 200, non fai niente, quelli vanno bene portata ottica, in spiaggia sono ottimali, in spiaggia proprio quando vedi proprio l'interlocutore, allora, infatti guarda, Antonio, alla cavalcata, no, che ci sono quei ragazzi che fanno il servizio per la cavalcata, no, per i gruppi, li sentivi, non ti sento, cioè sai con la gente che c'è lì, no, poi basta girare l'angolo, già non senti nulla. Si attuffavano perché non si sentivano con là, dovevano fare, contatta tu che sei più vicino, dovevano fare la spoletta, il messaggio, da lì a 100 metri, da lì a più lontano, così a più lontano ancora, poi loro penso che li usino omologati, certo, non si portano il Bao Bao in vista, no, contatto di guardia di finanza, carabinieri, cioè forse l'ordine presenti lì, no, non faresti una bella figura, è così. Prima ancora si usavano quei baracchini spalleggiabili, no? Ti ricordi, no? Quelli con quella custodia portabatterie, spalleggiabili, come dicevo io, che te li tiravi a spalle. E quello già non lo ricordo, a voglia, l'avevo usato lì, avevo fatto io un 40 cavalli spalleggiabili, figurati, perché avevo poco batteria, me l'aveva fatto Giovanni Feccia. Le batterie da 4,5, una fiammica, adesso non mi ricordo quante ce n'era. Tipo Midland 77 barra qualcosa, e quanti ce n'erano all'epoca. Però vedi, la cosa buona, Antonelli, che la frequenza era bassa, era la 27, avevi un bel antennone e un quarto d'onda, no scusa, balle, un ottavo d'onda, 1,20 m, 1,30 m, no? C'era lo snodo dietro, no, col piede lo snodo, poi c'era questo bel antennone. E certo, non era un po' antiestetico, ma almeno fungeva di più, caspita. Poi vabbè, in mezzo ai palazzi anche portatili c'è qualche limite. Oh, conta che io da dentro casa, anzi ti dirò di più, abitavo più in basso, abitavo in Viale Mameli, no? Da dentro casa, con quel portatile da cui hai tolto il finale, con l'antenna bella che avevano, un ottavo d'onda, no? Arrivavo da Paoletto, in piazza Santa Maria, come niente, ma mi sentiva come niente, io sentivo bene lui. Se lo fai adesso con questi portatili tipo Midland Alan 42, non arrivi a 100 metri, è uno schifo. Sì, già lo so, già. Ci sono certe parti che cazzo pompavano, come un treno pompavano, figurati. E poi non è che fosse potente, era 3 watt teorici, cioè 3 watt li dava pure, secondo me, se andavi con l'alimentatore esterno, lì a batterie, a meno che non siano carichissime quelle batterie, le pile, usavamo pile all'epoca, pile volgari, e non di marca, certe volte nemmeno di marca, non dura, c'era la pile, quelle che capitavano, super pila, quelle di una volta. Se ne andava di potenza, eppure arrivavi, figurati se andavi sul tetto col portatile, arrivavi nei paesi vicini, ed era così, ti avevo quei portatili, anche che fossero un watt e mezzo, ti ricordi i primi, tipo 2-3 canali un watt e mezzo, arrivavi arrivavi, quando stavi sul terrazzo di casa, arrivavi anche dai paesi vicini, Ossi, Osilo, non so, ti hai capito, no? Già lo sai, lo sai meglio di me, c'eri prima di me. Ehi, io lo so, c'era uno che parlava da sopra l'albero, lo sai. Come lì stava piovendo e si è farato. In che senso si è farato? Fulmine? No, dall'albero che è caduto, capito? Stava parlando con una ragazza, stava parlando. Era bello tranquillo, tutta la tata, poi si è scivolato. Oh, un CB, e chi è? Si può dire? No, non modula ancora. No, già non modula più, non mi ricordo mai col nome. E parlava dall'albero, parlava. Con una ragazza tanti anni fa. Adesso non mi ricordo mai che non me la tipo di quella, figura di due. Però è stato uno che ha modulato dall'albero. Perché a casa dove si può uscire, si è preso il portato, di solito sta all'albero di casa sua. E parlava tranquillamente con questa ragazza, finché un giorno si è messo a piovere e si è parlato il portatile dall'albero. E figurati se durante la pioggia ce n'era un fulmine pure. Altra caduta era, si sarebbe portato via tutto, lui e l'albero. Mamma mia, come quando vai a pescare, no? Sei su spiaggia, bello, zona aperta, e magari c'hai quelle canne in carbonio, no? E il cielo comincia a diventare nero. Se vai di giorno, mamma mia, bisogna fuggire. Quello sì. Specialmente di spiaggia. Quella che può succedere anche se fai tipo la Game Master, quella che c'è. Con la fibra in carbonio, se quello ti facendo i fulmini in casa. Ma poi la percentuale di beccare un fulmine è frequente, più di, io credo, una su 1.000.000, no? La probabilità di beccare un fulmine andando a piedi, no? C'è una su 3.000, è alta, infatti io c'è una fifa di fulmini, mamma mia, il lampo, mi ricordo quel lampo bianco, mamma mia, vabbè che se succede, manco te ne accorgi. Se ne va all'altro mondo subito, sicuramente il cervello va migliaia di volte di ampere, vai subito in cortocircuito, manco ti abiti. Sì, a parte ti ostriola bene, ti fa il rosso. Sì, ma già penso che l'attività elettrica al cervello venga istantaneamente stroncata, del cuore pure. Qualcuno si è anche salvato, ma chissà cosa ha trovato in quel momento. Ora sì che svieni subito, mio nonno. Cioè all'istante svieni, non. Certo, se ti ustiona poi le ustioni sono dolorose, mai sia. Non c'è fulmine è un casino. Dove scende, non deve fare niente al fulmine, capito? Infatti quando esci devi stare molto attento. Quando c'è un temporale, perché sennò o sotto all'albero, come si chiama, ti becca in pieno sulla fare tu, insomma. Capito? Ui. Va bene, io me ne vado a Nanna, cioè vado a Nanna, guardami il televisore. Sentiamo domani appena entri, Marco. Ok. Ehi, Antonio, dai, per come ero nei giorni scorsi, che ero un po' abbacchiato, poi avevo avvelenato questi computer. È un po' di giù di morale, già lo sai, no, Antonio? Oggi già mi sono ripreso, poi anzi mi sono tirato su anche troppo, anche abbastanza, beh. E d'altronde poi appena al mese prossimo che c'ho qualche soldino ci faccio una bevuta, magari tu birra, io caffetteria, già lo sai che non amo la birra, a meno che non sia il limone. Se facciamo la limone, qual è il problema? Che non succede nulla. Vabbè, senti, ti chiamo io, te ne invito io, non è problema per quello. Ci sentiamo domani, là. Non t'abbacchiare. Eia, dai. Poi casomai, quando sei in giorno ci mettiamo d'accordo anche a Leoncino, ci vediamo al circolo lì. Ci facciamo quattro chiacchiere, ci piangiamo una sulla spalla dell'altro. monitoriamo a vicenda. Ok Antonio, buona serata, buon tutto, buona televisione. Guarda, non, programmi non ne ho manco guardato, perché tanto l'altro giorno c'era Celentano, il cartone animato di Celentano lo fa. Non sanno più come recuperarlo, guarda. Vai, non era buona. Vabbè, ciao, saluta Simona, Giovanna, tutti quelli che trovi, li saluti. Ciao. Sì, ok, ciao, ciao, domani.